24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Sto lontano dallo stress. Fumo un po' e dopo gioco a FES. Fatto Maxess, Messi Valdes. Fumo un po' e dopo gioco a FES. Accendo e dico oh yes. Fumo un po' e dopo gioco a FES. Se mi riprendo oh yes. Fumo un po' e dopo gioco a FES. Io da quando facevo il segretario di sezione, da tanto tempo ho questa usanza il giorno delle elezioni di giocare alla PlayStation. Devo dire, mi ha quasi sempre portato bene, quindi preferisco non smettere. È Orfini che racconta della partita a PES con Renzi. Le dita, frate, tanto qui c'è birra e guida. L'antidolorifico per la partita, calcio champagne, smarcato Neymar, pato gol profumato, zio Paco Rabanne. Compro giocatori. Rabanne Afghanistan ha avuto quello che si meritava, nel senso che essendo una marionetta messa lì, lui si è convinto che il tiro gli tirava lui da solo, no? Si è automarionettizzato. Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a FES. Accendo e dico oh yes. Fumo un po' e dopo gioco a FES. La Ruspa è simbolo di equità, di fatica, di lavoro, di parità di diritti e di doveri per tutti. Viva la Ruspa! Passo il tempo sul microfono e resto all'Xbox. Faccio yes, yes, yo, yes, yes, bro. La gila pula e nel posto senti come suona. Dedicato a chi ha il diploma eppure non lavora. Dedicato ai miei fratelli con lavori strani, tipo che iniziano la sera fino all'indomani. Per comprare nuove Nike e giochi della Play. Salotto 5 metri quadri, siamo in 26. E qua la regione è stata governata male, altrimenti ci avrebbero spedito a casa con uno sputazzo in faccia. Invece ci hanno accolto a braccia aperte, perché per 10 anni questa regione è stata governata male. Due tiri sull'erba e penso di essere nella leggenda di Zelda. Baby rolla per me, lontano dallo stress. Fumo poco e dopo ciò. Io sono da 15 anni che voto in Liguria. La cittadinanza italiana viene ridata ogni 10 anni. Ho visto che i liguri mi hanno accordato la cittadinanza ligure dopo una 15. Fumo un po' e dopo gioco a FES. Se mi riprendo oh yes. Fumo un po' e dopo gioco a FES. A Lilli Gruber che mi chiedeva 5-2 è una vittoria o meno, io risposi che quando vado a giocare a calcetto la sera e vinco 5-2 poi vado a festeggiare. Proprio no, ora non ho tempo per parlare. C'è che qui devo dribblare sulla base di Don Joe. E siamo già al secondo sospiro. Sono le 6:29 minuti, Ecco Orfini che dice al Corriere della Sera: abbiamo giocato a PES sulla PlayStation e chi ha vinto? Chi ha vinto? Segreto di Stato. Mi sembra la dichiarazione più interessante di quelle trovate sui giornali. Il martedì post elettorale dovreste fare una cosa: prendere i giornali, cioè non prendeteli, perché sono veramente 17, 18, 20 pagine di commenti buoni. Per prenderli ci incartate una bella orata o un bel branzino e via. Salvate un paio di dichiarazioni, tipo questa di Orfini, quella più interessante. Abbiamo giocato a PES e chi ha vinto segreto di Stato. Salvate le vignette di Vincino, le ritagliate, ve le tenete da parte. E poi il resto veramente. Hanno vinto tutti che hanno vinto. Tutti. Questa è la regola. Adesso però vi diremo noi chi ha vinto, ve lo diremo con i due nostri ospiti del 2 giugno. È 2 giugno, è festa. Oh ragazzi, ma siete con noi, dateci un segnale di vita al 349-238-6666, vi prego. 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi. Ci ha già scritto Cosimo da Pistoia. Cosimo, ti vogliamo bene, tanto bene, tanto tanto bene. Lorenzo Nespoli ti vuole bene. Peter Beschi Francesca per regia d'Alpino ti vuole bene. Devo dire che mio figlio Mattia, 6 anni e mezzo, a giocare a cose, frutte, animali, queste cose, città, a un certo punto gli ha... Mattia, animali con la A, Alpino. Ti giuro, l'ho pubblicata su Facebook. L'hai vista Alpino? Alpino ha messo anima. Che gli hai fatto, Peter Bescapè? È la penna forse che... hai visto? Forse la penna nera. Animali con la A, Alpino. Va bene. Dai, sono le 6:31 minuti. Io voglio salutare i miei eroi, i miei compagni eroi. Qui a cominciare da il grande Vincenzo, io ti ammazzerò. Eh sì. Sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò perché... Secondo me questa è la scritta al Movimento 5 Stelle per Vincino. Vincino, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Ecco. Questa musichetta di intro. È bellissima. Salviamo le vignette di Vincino. Guarda, quella migliore è questa, quella con Renzi. Renzi che viene frustato da un sadomaso, ma contento dice: sì, elettore, picchiami, frustami. Ha perso 2 milioni di voti, il PD. Ma Renzi è felice, è volato in Afghanistan. Esatto, sì, è volato in Afghanistan. Il disegno della prima era come a cercare a Samarcanda, no? A Samarcanda, la bella morte là. Sì. E ha fatto il ponte, perché il 2 giugno è oggi, sarebbe. No, la fuga a Pescara, no? Come dire, ignominiosa fuga, insomma, ricostruire i piedi. Ah, la fuga del re a Pescara. Sì, la fuga del re a Pescara. No, dai. Ma sì, ma come cavolo fa poi uno che la notte alle 3 di notte sta già all'1 di notte sta giocare alla PlayStation, all'8 di mattina è già Erat. Come fa questo? Io non lo so. E poi dopo di pomeriggio di nuovo qua. Ma vabbè, so, prendi, cioè, prendi un aereo, un aereo di stato. Cioè, io non lo so. Quante ore ci vorranno arrivare là, scendere, andare, mettersi la divisina, là, quella ridicola, madonna mia. Vabbè. Oh, ma è fantastico, però aspetta. Sì. Ho chiesto di dare un segnale, ma guarda qua, dopo Cosimo da Pistoia, Max da Genova presente, Luca da Sesto San Giovanni, la mia Sesto San Giovanni, bravo, Mirko da Genova, anche Giorgio da Padova, si lavora, Fabio da Torino, saluta tutta la band, mi scrive un altro, chi è la band? Ciao, buongiorno da Aguinaldo, che nome è? Lo chiedo a Mario Adinolfi, Marione Mario Adinolfi! Al banco del... Mario da Roma presente, vedo sì. Che mani mancano, sta andando il pizzo, ma chi è Aguinaldo? Aguinaldo è un posto, però. No, non è un posto. No, Aguinaldo è un posto o un nome? Non lo so. Chiediamo all'ascoltatore di chiarire. Aguinaldo, facci capire, è come Rinaldo un come sudamericano. Aguinaldo. Poi c'è Lorenzo da Lido di Jesolo, Enrico, ti prego invita la Moretti, Max da Udine, non ho capito perché. Ale da Michele Erba, forse tutto nord, attenzione, sì, da Roma in giù dormono, certo, è Domenico da Lodi, è il salvinismo sì. Che allora lavora. Apriamo il Parlamento, dai, che Mario Adinolfi adesso ci dice insieme a Vincino chi ha vinto e chi ha perso, lo decidiamo noi qui. Caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi. Allora, Marione Adinolfi, direttore della Croce, la Croce. Vincono evidentemente. Attenzione. Matteo Salvini. Con nettezza sicuramente il 5 Stelle, che fa un'affermazione a me proprio, sono rimasto molto sorpreso dal risultato del 5 Stelle. Vincitore. Perde Berlusconi, perché non esiste quasi più Forza Italia, questo nessuno ha scritto, ma insomma Con Toti? Anche con Toti. Toti vince senza neanche la maggioranza in consiglio, là vince la Lega che fa solo. Vince Toti. Però effettivamente aspetta, fai dire i vincitori e sconfitti, poi dici il tuo. Già che sul Movimento 5 Stelle ti sei innervosito, dai, fermati. Renzi non ha una frenata, ma non si può dire perde. Dove lo mettiamo? In mezzo. Pareggia. Pareggia. Rimane comunque, diciamo, il candidato a battere. Allora. Un tema interessante che è la legge elettorale, ricordiamo che si chiama Italia adesso. In una legge elettorale come l'Italicum tu hai un sistema tripolare e chi è al governo, se ha due opposizioni divise, è favorito. Allora, questa è la sentenza Mario Adinolfi: vincitori Salvini, il Movimento 5 Stelle, sconfitti Berlusconi, pareggia Renzi. Ora Vincino, vai tu, chi ha vinto? Allora, secondo me disastro totale per Renzi, proprio una sconfitta clamorosa, una perdita. I suoi candidati perdono dovunque, ma proprio una cosa. Un disastro, da Samarcanda. Ritorna ai voti di Bersani, ecco qua. E ecco. Questo, se non è un disastro questo, dopo un anno di governo, dopo tutte le cose che ha fatto, è un disastro totale. Torna la ditta, eccolo torna qua. Torna la ditta. No. Renzi vince grazie a Rom, Renzi vince, Salvini vince grazie a Rom, difatti. Fatto la vignetta che lui ci ha messo là, grazie a Rom, e vince grazie ogni giorno questi 5.000-6.000 che arrivavano, ognuno di questi erano voti per Quindi Salvini però vince. I 5 Stelle non vincono niente, i 5 Stelle sono un partitino del 10% in tutta Italia, meno in Liguria. Ma come del 10%? Come del 10%? Sì, vai a vedere più o meno da tutte le parti, in Campania, in quale fa 10%, 12%, 11%, come dire, un irrilevante AN o un irrilevante un partito di quelli del 10% che non serve a niente, perché poi lui non vuole allearsi mai con nessuno, cioè non odia la politica, per cui senza la politica che servirà questa cosa? Non servirà mai. Quindi il Movimento 5 Stelle, come possiamo definirlo? Disastro. Non vince da nessuna parte, ma proprio l'unica città, a Pirra per Stia, ma stiamo scherzando. Dove? Più di mafia in Sicilia, una delle città più di mafia. Dov'è che hanno vinto? A Pietra Persia, come dire, uno dei paesi del Vallone, di quelli terribili. Vabbè, Io bene a Pietra Persia, ci sono stato, conosco quell'altro. Ma adesso non li vuoi più bene? Anche a Baghetti. No, li voglio bene assolutamente, come prima, non. Anche se hanno votato il Movimento 5 Stelle. Ma è un paesino di quelli piccoli, da così. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, ma quindi hanno perso. E poi? E Berlusconi? Allora, Berlusconi è stato salvato da Totti. Assolutamente. Salvato da Totti. Berlusconi senza Totti perdeva. Con Totti no, è ancora in gioco. E là, poveretto, da 2 anni che poi non può fare. Vabbè. Aspetta, andiamo avanti. Aspetta! Alfano nulla. Vabbè, ma Alfano, ma dai, Alfano. Ma lui, Alfano nulla, ma solo ha portato una sfiga enorme a Renzi, perché ogni volta che va in televisione dice questo governo ha fatto No, però aspetta, fermati un attimo, Vincino. Allora, Marione, la questione è questa, effettivamente. Renzi, cioè, dove ha candidato, non so, la Moretti, la Paita, cioè persone più vicine a lui, è andata, vabbè, la Moretti manco lo diciamo, cioè viene presa per il culo da tutti. È uscita la pubblicità della Ceres, la birra Ceres, con la foto, la prossima volta provate con la Ceres. Cioè, con la foto di Alessandra Moretti, cioè, presa per il culo in maniera clamorosa. C'è la foto, andate a vederla. La pubblicità della Ceres. La prossima volta provate con una Ceres invece che con una Moretti. E invece ha vinto con Emiliano, che prima cosa ha detto: non sento Renzi da mesi, lui il sud non lo capisce. E De Luca, che non è un renziano, Marione. Sì, ma io voglio dire, adesso se guardi la mappa delle regioni, il PD governa 16 regioni su 20. Guardi, il risultato elettorale fa 5 su 2, comunque il partito, vogliamo dire, ha perso il 10% del 30%. Ci sono altri partiti del 30%. 25. Sì, però è vero, Vincino, è vero che governano credo 17 regioni su 20. Governano 17 enti inutili. Ma vabbè, ho capito. Però è un partito rosato, un funzionario oscuro. Madonna mia, che niente, un ragioniere, Vincino, un partito che era colto, che aveva i Veltroni, ora è un partito di rosato. Marione, è che gli ho detto: ma il 2 giugno è ferie, stai sicuro che ci sei, Vincino? Sì, no, vabbè, dai, intervengo. Dai, aspetta, fermati un attimo adesso, Marione, finisci. Questi numeri, insomma, non sono i numeri di un partito al tracollo, sono i numeri di un partito che rimane centrale, oggettivamente centrale. Non ci sono altri partiti del 30%, neanche lontanamente. 25 ecco. È sicuramente, diciamola così, così convincino pure un po' contenta. È il primo partito italiano senza un è il primo partito. Governa, no, 5 Stelle. Prima 5 Stelle era il 10, infatti basta, ti taglio, ti casso. Questi numeri quando è? No, prima era obiettivo di Rossi, ora invece no, come dire, ho cassato dalla Juventus. Paracassate. 16 regioni su 20, vai fra il 25 e il 30 giorni, sei il primo partito oggettivamente. Governi, penso che insomma non è che si è messo proprio malissimo. No, la partita no. Che va, che prevede questa legge elettorale, lo ricordiamo, che il primo partito prende tutto, insomma, in quello schema, è uno schema insomma su cui Renzi sicuramente non è brillante come all'Europea, ma rimane l'uomo da parte. Tra l'altro, ecco, poi se mi dite chi lo batte, chi è che lo batte? Lo batte Salvini? No, tra l'altro ti dico che sulla Juve c'è una bruttissima notizia che viene da queste, quindi stai attento. Non parliamo di cose serie adesso. No, stai tranquillo, nessuno si è stirato. La bruttissima notizia è che Furino non ce l'ha fatta a essere eletto sindaco di Moncalieri. Furino, ve lo ricordate? Furino, stanotte gli aveva preso lo stiramento a Pogba. No, no, speriamo a Tevez piuttosto. No, io sono per lo sport. Sono per lo sport. Tevez, sì, però magari. Io sono per lo sport e la sportività. Però magari, quindi Tevez in campo. Però magari Chiellini, Bonucci e Barzagli fuori. Bel muro contro i tre. Allora. Ecco appunto, chi è che può battere Renzi? È Salvini? Caro Vincino, Salvini? Guarda, devo dirti, non lo so. Se continua questo trend, potrebbe anche essere. Cioè, come dire, il trend è che lui non ne azzecca più una. Non ha più una classe dirigente intorno lui a sé degna di questo Renzi. Una classe dirigente degna di questo nome. Questo è il punto. Se vedete ieri in televisione, tra quello là, quello del scemo della PlayStation, è Rosato, come dire, ragioniere di Trieste, della Democrazia Cristiana, non ha pensato prima. Ma chi è lo scemo della PlayStation? Orfini. Lo scemo della PlayStation è Orfini, un altro che non capisce niente notoriamente. No, c'è un partito che aveva una grandissima ricchezza dentro di gente, da Macaluso a Petroni a Rosato. Adesso ce l'hai con Rosato. Ti sei svegliato con Rosato. Ma che t'ha fatto Rosato? Che t'ha fatto? Ha visto la povertà. Povertà, hai capito? Cioè i Luca Lotti, cose, madonna mia, un disastro, questo è il punto. Lui doveva tenere il grosso, la parte colta di quel partito là. No. E ha tenuto Rosato. L'ha sbattuto tutti fuori da tutti i lati. Ha fatto come Berlusconi, che aveva Giuliano Urbani, aveva Antonio Martino, aveva Scognamiglio. Ma mica l'ha sbattuti fuori Martino, assolutamente. Guarda. No, vabbè, però sono stati un po' isolati, dai. Ma non da lui, la verità politica, effettivamente la verità è questa, Mario. La questione, come ha raccontato vari giornali, è che Renzi è un one man, cioè è il partito di Renzi, no? Come lo chiama Ilvo Diamanti su Repubblica. E quindi se non c'è Renzi contro tutti, non vince. Però nelle regioni che devi fare, ha dovuto mettere la Moretti, per dire, no? Poteva mettere qualcun altro, e la gente nelle regioni vota il candidato, no? Quindi questo è un problema. Ma vai per Liguria, quella che portava sfiga, smettila, fermati, cioè c'è un problema, l'alluvione, quella dell'alluvione, ho capito, è un errore tragico, oggi è irrefrenabile, fermati Vincino. No, c'è un problema. Sono felice che ha perso la faida, da figlio di Ligure. C'è un problema di Nolfi, di Renzi, che non ha creato dopo di sé una classe di persone presentabili che possono, non presentabili nel senso che puoi intuire, vincere. La leadership forti hanno questa tendenza, potremmo dire questo vizio, anche Berlusconi a un certo punto, no? Azzera tutta la classe dirigente di un certo livello e diventa Forza Italia il partito delle Minetti, l'intellettuale diventa Maragattagna. Sì, ma la, la Minetti non... Maragattagna è una grande intellettuale, no? Ha fatto una legge bellissima, sì, dai, è capace di mediare. Ma tu perché ti hanno emarginato nel PD? Tu, a te. Ma vabbè, io non conto nulla. Il dato significativo è secondo me Renzi. Renzi ha ancora lui, io per carità non è che gli voglio bene, come ha detto Berevicino, io facevo il deputato renziano e sono stato espulso, quindi non è quello. Il dato che mi interessa è che quella figura è una figura ancora forte, secondo me. Matteo Renzi è ancora uno che ha le elezioni politiche, che sono quelle che contano, poiché alle regionali alla fine governa 16 su 20, che non è una tragedia, alle elezioni politiche rimane la figura da battere. Se qualcuno mi convince che il centrodestra in mano a Salvini batte Renzi, allora io non ci credo, non credo che ci sia uno schema politico nazionale in cui può essere praticabile che lo scontro Renzi-Salvini venga vinto da Salvini, poiché lo schema che prevede che quelli che stanno al governo hanno le opposizioni divise, perché le due opposizioni grosse sono divise, è molto difficile che due opposizioni riescano a battere un'entità di governo significativa. Però effettivamente che governa 16 Vincino, Vincino ci ha detto una cosa interessante, ma perché ti hanno fatto fuori dal Partito Democratico? Ma non mi hanno fatto fuori, cioè adesso diciamo sono la dinamica, poi non mi fece fuori il Renzi, mi fece fuori Bersani, le liste faceva Bersani. Ah, ti ha fatto fuori Bersani? Ah, ti ha fatto fuori Bersani? Non mi sono presentato, poi non è nel dato. Vabbè, si dice sempre così. Non è molto interessante. Si dice è un bravo direttore che, di giornale che deve prendere collaboratori bravi da tutte le parti, non è che deve aspettare, cioè deve scegliere, cioè deve creare un partito che pensa. Che pensa? Lui, che lui, pensa? Come dire, lui l'ha distrutto il partito che pensa. E lui Vincino è quello che ha scritto. Amendola è in grado. E Vincino, è quello che ha scritto la cavalcata di Matteo Renzi. Vabbè, andiamo. L'adoravo Renzi. L'adoravo, vabbè, andiamo al traffico. Basta, non lo ami più. Quando mando il traffico, godo come un maiale. 24 mattino. Ai Vicenzi De Luca, martello e manganello, e metta a posto la cabana che è tutto lo disordine. Vai De Luca, ti appoggiamo in eterno. Votto, votto manganello o martello. Blatter, nonostante gli arresti per corruzione, sembra che non abbia avuto FIFA. Alessandro Mila, visto che genovese a loro dire, a dire di tutti, sono molto molto tirchi, per vincere Berlusconi cosa gli avrà promesso? Ma come si fa a far venire in trasmissione due celebrolesi come Vincino e Adinolfi? Ma sono due poveracci che, poi uno addirittura anche juventino, il 99% di juventini sono tutti dei poveri disgraziati. Ma no, non è possibile chiamare quella gente lì, ma fai una trasmissione un po' più seria. Là. Milan a radio mattina 24, si salva solo Mario Adinolfi che ha il senso morale ancora di vedere ragionamenti, l'unico che ha un forte senso morale, il resto siete tutti pederasti, schifosi e vergognosi. Ah, ecco, pederasta Vincino, ecco, che non sei altro. Felice. Come felice, no? Marione, qua mi sa che devi ridare un po' il tuo numero di telefono perché la segreteria... Ma è divertente però quelli che hanno cura a me Vicino, ma che era profeta quello lì che ha detto, come ci va a sapere che eravamo stati invitati? No, ma infatti, pederasti, Lulio, pederasti, però c'è anche quelli che criticano, ci sono anche quelli che criticano. Così deve essere, così deve, vuol dire che siamo del cuore della gente. Esatto, nel cuore della gente. Oh, come De Luca. De Luca, l'incantatore di serpenti. De Luca, che quando parla, De Luca, sentitelo un po'. State con gli occhi un po' gonfi, avete fatto la nottata. Cari amici, grazie a tutti quanti voi. Abbiamo concluso nel modo che noi auspicavamo questa campagna elettorale, difficile, complessa. Devo rivolgere un primo ringraziamento al segretario del partito Renzi per la fiducia che ha voluto darmi e per il sostegno che mi ha riservato in tutta la campagna elettorale. Vabbè, ma neanche uno sfessato, Pinocchi. No, ma è un discorso da comunista colto. campagna elettorale dura, di ringraziamento al segretario, come dire, lui è nel 1950, è stupendo. No, vabbè, ma tutti, oggi, ma chi è che salvi tu? Come no, come io rispetto i vecchi dirigenti comunisti. Stavi facendo un complimento. De Luca l'ho conosciuto, assolutamente sì, De Luca l'ho conosciuto, assolutamente, mi ha fatto vedere la sala dove si riunì il primo governo italiano, mi parlava di Benedetto Croce, assolutamente, una persona colta, e poi stima la satira quando non è su di lui, assolutamente. Fantastico, sì, come molti. Allora, sentite ancora De Luca, qua vediamo cosa ci regala ancora. Lavoreremo in questo modo per risultati concreti, per avere un governo all'insegna della semplicità, dell'umiltà, adesso non esageriamo, umiltà diciamo nella preparazione degli atti, poi si va avanti come dei tre, si va avanti. Eccolo che si scalda. Vabbè, saluto anche Giorgio da Sesto San Giovanni, un altro da Sesto San Giovanni, ragazzi, tutti i miei parenti, Ulisse ci chiama, anche Paolo da Cambrili in Spagna. Che ci fa secondo te Mario Dinolfi? Dalla Spagna. Sta in vacanza, sta a fa il ponte, bravo, meno male. Dalla Spagna, la Spagna. Sveglia comunque alle 6:30 di mattina. Che belle le squadre di calcio spagnole. Falla finita. O devi tifare per tutta la settimana con grande abnegazione. Senti Mario, io sono 2 anni e mezzo che ti invito all'indomani. All'indomani. Ecco, capito? Per favore, potrei non invitarti lunedì? Fai bene, capisco il meccanismo. Potrei pensare che c'è gente che da 4 anni si snapshotta, che si fa la fotografia delle cose che scrivo su Facebook e su Twitter, che da 4 anni dico vinciamo sempre, aspetta una volta e poi dici hai sbagliato, capito? Va bene. Allora è il momento pronostico. Attenzione. Sì, adesso te la sei tirata. Mario Adinolfi, direttore della Croce, sta per comunicare il risultato di sabato di Juve Barcellona, finale Champions League a Berlino. Attenzione, aspetta un po' di musica. Un po' di goofy. Dai, sulla musica della Champions, Marione, dai, su, vai. 1-0 per la Juventus, gol di Morata. Al minuto? Al 9° minuto. E poi catenaccione. 31 minuti di catenaccio. C'è un palo di Messi almeno. Al 9° minuto, come ad Atene l'Amburgo. Ti ricordi? Sì, la finale sì, che segnò la mia infanzia. Sì, sì, certo. Da favoriti. E come no? Magath, ma il grande Magath. Ma che 40 metri? Ha tirato da 22 metri. Magath. E vabbè, e poi Neymar almeno un palo, Messi. No, quello rigore sbagliato da Messi. L'ho visto. Sì, vabbè, sì, ma sì, siamo alle fantascienze. No, ero al Nou Camp al finale di Supercoppa spagnola, Messi tirò contro l'Atletico Madrid e sbagliò. Vabbè. Senti, ma vai. Questa te la ricordi? A Manchester? No, dai, vabbè, Manchester, che è per legarti questo. Sì, è per... Ascolta un po', Marione, devo chiudere, ma vai a Berlino o no? Vai a Berlino? Sto decidendo in queste ore. Sto decidendo. Che vuol dire? Ce l'hai il biglietto o no? No, lo trovo, se mi devo impegnare lo trovo. Cioè, capito? Vincino, una telefonata, mezza telefonata. Vincino, fammi il tuo pronostico, dai, come finisce Juve Barcellona? No, guarda, no, su questo non c'ho la mia idea, ma me la tengo da me, già mi sono... Ma che? Assolutamente. Ma spari a zero su tutte, adesso ti chiedo un pronostico di Juve Barcellona. A me non sono. Ma no, tieni al Palermo. Io tengo al Palermo, assolutamente. Tengo al Palermo e come dire, Messi è un grande giocatore, obiettivamente uno dei migliori. Ma stai facendo il Democristiano sulla partita della Juve? Ma è una roba pazzesca! Ma che è? Sei uno scommettitore clandestino? Ma non lo so! Ma dimmi un pronostico! Guarda, non ne ho idea. Ma non hai idea! Io sui pronostici politici ci secco quasi sempre. Ma qui no. Sullo sport quasi mai. Vabbè, allora niente, vi devo salutare. Un bocca al lupo. Per Adinolfi, guarda che 1-0, 1-0, va bene, io non so come andrà, ma tanti auguri a tutti gli juventini, a Mario Adinolfi, augurissimi, dai, alla prossima. È l'inno del Barcellona. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, caro Michele da Sesto Fiorentino, che ci scrive: non pensavo, Alessandro Milan, di trovarti in onda questa mattina. Siamo qui, siamo in diretta, sono le 7:19 minuti. Non solo, andiamo in diretta fino alle 9:30. Alle 9:30 solo per oggi. Ieri fino alle 10, oggi 9:30, ci stiamo un po' accorciando. Domani rientriamo alle 9, fino alle 9, come di consueto. Parleremo un po' di pensioni, perché avremo ospite l'avvocato che ha fatto vincere la prima causa contro il decreto, contro il decreto e la legge della consulta che ha bloccato l'indicizzazione, cioè la legge Monti che ha bloccato l'indicizzazione delle pensioni, insomma quella vicenda lì. C'è stata la prima causa di un avvocato a Napoli che ha vinto, ha fatto ricorso al tribunale, e il tribunale ha detto: bisogna dare indietro tutti i soldi. Con lui ci sarà il nostro presidente del CODA, con Carlo Rienzi, e anche il sottosegretario dell'economia Enrico Zanetti, ma avremo anche tanti altri ospiti, come il rettore della Sapienza, quello che è stato ripreso da molte polemiche perché ha partecipato al concorso di Miss Università. Il rettore della Sapienza, Eugenio Gaudio, sarà ai nostri microfoni dalle 8:40, ma anche altri ospiti, racconteremo anche di altre cose, insomma una puntata ricchissima in questo 2 giugno. E voi ci siete? Scriveteci al 349-238-6666. Che state facendo invece di fare il ponte? Debosciati. Debosciati è sempre in senso affettuoso, lo sapete. Questo è il 2 giugno del 2015, a raccontarvi i giornali che oggi sono tutti dedicati all'analisi del voto. Succede sempre così, come ho detto, martedì post elettorale, le prime 20 pagine dei giornali sono per commentare i voti e anche per riempire, cioè per accartocciare il giorno, il pesce. Dai, su, diciamolo francamente, buonissimi per accartocciare il pesce, almeno per l'80% dei commenti. Comunque, il Sole 24 Ore, tasse, cantieri e lavoro, i test dei neogovernatori, questo è il titolo di prima pagina. Per il Corriere della Sera, PD diviso, l'offensiva di Renzi. Anche il Messaggero: Renzi processa il PD, si cambia. Repubblica: Renzi è andata bene, scontro nel PD, Salvini a Berlusconi, ora il leader sono io. Poi molti giornali si concentrano sui 2 milioni di voti persi dal PD. Il Giornale: Renzi 2 milioni in fuga. Libero: Renzi perde 2 milioni di voti. Il Fatto Quotidiano: 2 milioni in fuga da Renzi, aveva più voti il PD di Bersani, questo è il titolo. Per la Stampa: PD, Renzi prepara la resa dei conti. Mentre il Manifesto mette Renzi in mimetica, è andato a Herat in Afghanistan, il titolo è Lo schiaffo del soldato. Anche per Avvenire: voto la grande emorragia. E anche il PD alla resa dei conti, lo stesso titolo del Giorno. Come vedete, questa è l'analisi un po' del voto. Io però voglio partire dalle altre notizie come di consueto. Intanto la notizia di cronaca di Roma: Boccea, sono stati catturati alla fine i due Rom che erano entrambi in macchina, uno alla guida, probabilmente il minorenne, della macchina che ha travolto e ucciso la filippina a Boccea, ha ferito altre persone. I due fratelli dell'auto pirata presi su indicazione della madre. È stata la madre che viene intervistata a Repubblica. Da Repubblica, pagina 25: ho implorato ai miei figli, consegnatevi alla polizia e chiedete perdono. Quando li ho rivisti mi hanno detto che avevano paura che qualcuno li picchiasse, hanno sbagliato ed erano spaventati, dice la madre intervistata da Giuseppe Scarpa. Domenica notte sono uscita dal campo e li chiamavo, urlavo i loro nomi. All'una di notte uno dei due è sbucato dal ciglio della strada e piangeva, mi chiedeva perdono. L'ho abbracciato, è mio figlio. Dopo tutto gli ho detto che lui e il fratello stavano sbagliando a fuggire, dovevano consegnarsi alla polizia. E così hanno fatto. Sono uno di 19 anni, uno di 17. Chi era alla guida probabilmente è quello di 17, così giura il Corriere della Sera. Il minorenne era alla guida. Quando sono stati catturati hanno pianto, ma ora non rispondono al PM. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tra l'altro uno dei due, il minorenne, era già conosciuto per furto, resistenza pubblico ufficiale, possesso di arnesi atti a offendere, cacciavite soprattutto per scassinare le porte degli appartamenti. Scrive il Messaggero che c'è la possibilità, essendo soprattutto uno dei due minorenne, se non si riconosce la volontarietà, possono tornare subito liberi. Questo è il titolo abbastanza incredibile di pagina 14 del Messaggero. Rischiano pene pesanti, certo, ma perché sono accusati di omicidio volontario, ma se non si riesce a stabilire la volontarietà, appunto, se il reato ipotizzato dovesse essere riscritto in omicidio colposo, Anthony, cioè il minorenne, potrebbe essere rapidamente liberato. Lo stesso varrebbe per sua moglie Maddalena, anche lei minorenne. Così scrive il Messaggero a pagina 14. E vabbè, speriamo di no. Intanto che succede a Tony Blair? Tenetevi forte, eh? Non è da mani sul volante, ma tenetevi forte. Sapete Tony Blair, colui che è stato per tanti anni primo ministro in Gran Bretagna, quanto guadagna per fare uno speech, un discorso? Quanto avrebbe chiesto, e c'è una grossa polemica in corso, per fare uno speech per la lotta alla fame? Cioè va a fare un discorso per spiegare come si fa la lotta mondiale alla fame e chiede 380 euro al secondo. 300, c'è Peter Mescavè che ha detto, ma 380... 1, 2, 3, ecco, già hai guadagnato 380 euro per 3. Fai un po' i tuoi calcoli, che a me le tabelline già col fosforo normale vengono male, figurati a quest'ora. Pagina 15 del giornale, Fausto Biloslavo: Blair parla di fame ma si fa pagare 380 euro al secondo. L'ex premier laburista voleva 460.000 euro, l'equivalente di 330.000 sterline, per aprire una conferenza mondiale sulla fame con un discorso di 20 minuti. In pratica 380 euro al secondo. Questo è quello che ha denunciato il Daily Mail, tabloid britannico, specificando che i soldi sarebbero finiti nelle casse della fondazione della moglie, Sherry Blair. L'agenzia, che aveva preso i contatti per invitare l'illustre ospite, ha fatto sapere questa vicenda. Ovviamente gli organizzatori hanno desistito, anche la stampa racconta questa storia. Blair, 300 euro al secondo, per la verità 380, per un discorso contro la fame. Allora il forum svedese IT, che si occupa appunto di lotta alla fame, ha respinto la richiesta dicendo: con quella cifra potremmo sfamare mille famiglie potremmo sfamare con quella cifra, visto che si parla di fame nel mondo. E Ale, viva Tony Blair e i suoi cachet. Voglio invece salutare con grande gioia una notizia che c'è sul Corriere della Sera, la racconta Serena Danna, pagina 31, una storia di crowdfunding, cioè la possibilità di raccogliere soldi facendo degli appelli in rete. Ebbene, sappiate che Federica Belletti, di cui ha parlato anche il nostro Federico Taddia, credo, un giorno nella trasmissione Si può fare. Federica Belletti è una studentessa che ha avuto la possibilità di andare alla Columbia University, e non è da tutti essere scelti per andare alla Columbia University, solo che mancavano 80.000 euro da pagare. Allora Federica Belletti ha detto: sapete che faccio? Chiedo aiuto alla gente per fare inseguire questo sogno di andare alla Columbia University. E pensate che in un mese ha già raccolto da persone, racconta il Corriere, che danno dei soldi in cambio di nulla, in cambio di voler soddisfare il desiderio, il sogno di questa ragazza di andare a studiare alla Columbia University. Ha già raccolto 28.000 euro Fede e gli altri studenti della colletta su internet. In un mese raccolti 28.000 euro per andare alla Columbia. La potete trovare come Fede's Mission for Columbia, questa è la sua pagina, è sulla piattaforma di crowdfunding che è GoFund. E niente, Federica spera di coronare questo sogno. Certo, 28.000 euro ne mancano appunto 52.000, però 80.000 euro è quello che deve raggiungere. L'idea è quella di chiedere aiuto alle persone. Oggi racconta questa storia il Corriere della Sera, pagina 31. Mentre eccoci qua, questa sì, mi fa un po' imbarazzo a dire che la notizia mani sul volante, perché guarda, è una tragedia proprio in macchina, ma sapete che è la nostra modalità per raccontare l'articolo che ci fa pensare di questa giornata, anche se è il 2 giugno, anche se è festa. La racconta Il Secolo XIX con Fabio Poletti a pagina 19. Travolse e uccise un vigile a Milano, l'anno prossimo potrebbe tornare libero. Successe nel 2012, forse lo ricordate, era un 17enne alla guida di un SUV. Qualche arrabbiatura, i parenti di Nicolò Savarino se l'erano fatta venire dopo la sentenza d'appello che aveva già ridotto la pena a Remi Nikolic, 17enne, che alla guida di un SUV aveva investito e ucciso il vigile urbano 42enne nel quartiere Bovisa, Milano. Rocco Savarino si era detto pure pronto a restituire l'Ambrogino d'oro, preso in memoria del fratello. La giustizia non si sta comportando come dovrebbe, denunciò l'anno scorso, e ora proprio sull'onda, tra l'altro, anche se sono vicende scollegate, quindi non c'entra niente, sull'onda di quello che è successo dei Rom che hanno investito a Roma e ucciso questa filippina, la notizia è che l'anno prossimo, sapete com'è, sconti di pena, buona condotta, barabà barabà barabà, e a lei forse libero, dopo avere nel 2012, neanche tre anni, ammazzato una persona senza patente a 17 anni, vabbè. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! AM7, il pallone d'oro dell'informazione. Sì, ma non è quello lì che conta, è Messi, non lui. AM7, CR7, insomma, no. Vabbè, dai, non pensiamo a cose inutili, cose non importanti. Allora, come detto, le prime 20 pagine dei giornali oggi, di qualsiasi giornale, sono dedicate all'analisi del dopo voto. Quindi sommate 20 per 20 giornali, sono 400 pagine che mi sono dovuto smazzare in fretta e furia, e tutti dicono la stessa cosa, cioè tutti che dicono che ho vinto, abbiamo vinto noi. Vediamo di selezionare alcune cose che secondo me sono meritevoli, perché hanno spunti un po' diversi. Intanto Maria Teresa Meli a pagina 3 del Corriere della Sera racconta la reazione di Matteo Renzi, che sapete è volato a sorpresa a Herat in Afghanistan. Il titolo del Fatto Quotidiano, come di altri giornali critici nei confronti del Presidente del Consiglio, è: Renzi scappa in Afghanistan per non commentare il voto, il 5-2. Ecco il Corriere della Sera, pagina 3. Matteo Renzi è Matteo Renzi, con buona pace dei suoi avversari politici, e non quello rimane. Pensate che questo voto, solo perché la Liguria è andata a Toti, mi fermerà? Dice ai suoi: sbagliate. Io andrò avanti più deciso di prima. È finita 5-2, per me va bene. Lunedì si guarda, lunedì prossimo, alla direzione del PD. Quando ci sarà la direzione ci guarderemo tutti, aggiunge Renzi, finalmente nelle palle degli occhi. Voglio vedere cosa ha il coraggio di dire chi ha rilasciato dichiarazioni contro il partito al Corriere proprio il giorno del voto. E poi aggiunge Renzi: chi non vota la fiducia al governo fa una scelta legittima, ma si mette fuori da solo. Insomma, la famosa resa dei conti nel PD, annunciata con telenovela, puntata numero 8422, forse lunedì prossimo, forse, per carità, non voglio far partire la settimana decisiva della resa dei conti nel PD, ma forse la settimana prossima ci sarà qualche svolta, un Renzi che insomma dice è arrabbiato perché qualcuno ha remato contro. E poi c'è questa frase: il premier che non ama i tempi morti comincerà a occuparsene già oggi, sa che alle storie cupe ed emergenziali di Salvini bisogna rispondere con uno storytelling convincente. Voi capite la politica italiana? Io quando ho letto questa frase mi è venuto da spaccare due vetri, ma mi sono fermato. Cioè, la politica è questa: Salvini che trasforma tutto, secondo Renzi, in storie cupe ed emergenziali, e quindi bisogna raccontare uno storytelling convincente. Cioè, di là va tutto male e qui dire va tutto bene. Lo storytelling, bellezza, è lo storytelling. Allora, comunque, un Renzi che anche per il Messaggero, io ho vinto, vado avanti, nel partito chi non ci sta è fuori, questo è il titolo. Alberto Gentili racconta, pagina 3 del Messaggero, la stessa cosa del Corriere, e cioè che Renzi crede ancora nel renzismo e ora basta giochini, chi ci sta bene, chi non ci sta è fuori dal partito, avremo i numeri in Parlamento per poter fare a meno di loro, così dice Renzi. Insomma, un Renzi che vuole puntare dritto ad andare avanti e a fare piazza pulita all'interno del Partito Democratico. Certo, la sinistra del PD o la opposizione del PD ha subito alzato la testa dopo questo 5-2, dopo la Liguria persa. Io non mollo, vado avanti fino al 2018, invece è ciò che dice ai suoi secondo Repubblica Renzi. A chi parla di elezioni anticipate, Francesco Bei dice Renzi non pensa assolutamente a tutto questo. Certo, però c'è questa cifra, 2 milioni, la mettono un po' tutti i giornali. Renzi perde 2 milioni di voti, Libero, pagina 5. I partiti perdono milioni di consensi, questo è secondo il Corriere della Sera, quindi non solo Renzi. Renato Benedetto analizza attraverso l'Istituto Cattaneo il confronto con le europee, che cosa? I voti ai partiti. Si tratta di elezioni amministrative, bisogna fare le distinzioni, ma il giorno dopo le regionali emerge la flessione dei principali partiti, tranne la Lega, unico in crescita. Perdono Forza Italia, perde anche di poco il Movimento 5 Stelle, che però consolida la propria presenza, perde anche il PD, che pure vince in 5 regioni su 7. In media il partito di Renzi si è fermato al 25%. Ha preso nelle 7 regioni 2,1 milioni di voti in termini assoluti, rispetto al maggio dei record, quello del 40,8% alle europee, il partito del Premier lascia 2 milioni di voti e 1 milione in meno rispetto alle politiche del 2013, meno 30%. Questo 2 milioni è una cifra che viene un po' rinfacciata dai giornali, un po' tutti. Per il Fatto Quotidiano si è tornato ai livelli della ditta di Bersani come numero di voti. Ma Orfini, che è il presidente del Partito Democratico, colui che è stato immortalato a giocare alla PlayStation con Renzi durante lo spoglio elettorale, intervistato da Alessandro Trocino sul Corriere della Sera, pagina 8, dice: noi bene, mentre il Movimento 5 Stelle zero titoli. Parafrasando la famosa frase di Mourinho, dal calcio. Siamo gli unici che possono dirsi soddisfatti, non certo i 5 Stelle che festeggiano con zero titoli. Così parla Matteo Orfini. O la destra, che fino a un anno fa governava 6 regioni e oggi 2. Certo, la ombra è il calo di affluenza, doloroso e preoccupante. E poi la partita PES, la dichiarazione più interessante di tutta la giornata. A PES giocavamo, alla PlayStation. Chi ha vinto tra me e Renzi? Il segreto di Stato è stato posto. Ah, non lo sapremo. Nella stessa pagina, Rosi Bindi, presidente Commissione Antimafia, viene intervistata da Monica Guerzoni, siamo sempre a pagina 8 del Corriere della Sera, e Rosi Bindi ora dice: pretendo ora scuse formali e pubbliche dal partito. Ora che le urne sono chiuse, il PD ha vinto, pretendo un risarcimento per il linciaggio al quale è stata sottoposta la mia persona. Un risarcimento che chiederò in sede istituzionale e di partito. Pretendo le scuse formali e pubbliche. Così parlò Rosy Bindi. Vedete che le letture sono talmente bizzarre e strane in queste 20 pagine che vanno riempite dei giornali di commenti, che Fassina sul Manifesto a pagina 3 dà una lettura alle elezioni regionali che a me sinceramente era sfuggita. Tra le mille a cui ho pensato, questa era sfuggita. Il PD ha perso nelle regioni per via della riforma della scuola. Questo è quello che ha detto Piero Fassina, Stefano Fassina. Piero Fassino è il sindaco di Torino. Stefano Fassina sul Manifesto, direi proprio di sì, ha contribuito in modo significativo la campagna Io non voto il PD cresciuta nelle scuole all'aumento dell'astensione e al travaso di voti verso altri partiti come il Movimento 5 Stelle. Bah, questa è la lettura di Stefano Fassina. Vabbè, ci sono tutte le analisi dei vari governatori, le interviste a Toti, a De Luca, c'è Salvini che fa un'intervista e dice, intervistato dal Corriere della Sera da Marco Cremonesi, ora Renzi traballa e coi nuovi consensi dal sud anche Pontida sarà diversa, punta a unificare, non a unificare, a essere il leader del centrodestra e vuole le primarie del centrodestra, l'ha detto anche alla Zanzara, fare le primarie anche per l'amministratore di condominio, ieri Salvini. E poi c'è De Luca che si presenta a Severino chi? Vabbè, come dire... Ecco, l'ultima cosa che vi voglio citare sulle regionali è questa: gli impresentabili. Si è fatta tanta discussione sugli impresentabili, alla fine sono stati eletti in tre. In tre sono stati eletti, mentre per esempio tra gli impresentabili è stata messa Sandra Lonardo, cioè Lady Mastella, la moglie dell'ex ministro Clemente Mastella. Lei ha ottenuto più di 10.000 voti in Benevento, ma non avrà un seggio per via di una legge elettorale che lei definisce vergognosa. Vabbè, le elezioni regionali sono finite, sono passate, meno male. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, Alessandro, vorrei tirarti un po' su. Sì, mi tieni, grazie, da parte, ho sentito che parlavi di questo compenso, di questo equo compenso di 380 euro. Sì. Ecco, se mi tieni da parte l'articolo, perché ho fatto due conti, sì, mi accontenterei di un decimo. Un decimo? Di un decimo, sì, stimando un 200 secondi mi verrebbero 7600 euro. Vorrei parlarne tanto al direttore del personale. Non è male, 200 secondi al giorno fai. Quindi... Sì, 200 secondi. 7.000 euro al giorno, 7.600, non è per fare proprio il pidocchio, però insomma 7.600 euro, questi 600 euro effettivamente per 5 giorni farebbero 38.000 euro. 38.000 a settimana, lascio lì anche a te. Ecco, sì, aspetta, 3x4 120, 8x4 30, 150.000 euro al mese per questo intervento di Mauro Meazza ogni giorno. Mi pare il minimo, anche perché voglio dire, io ti parlo di cose importanti. Ad esempio oggi ti vorrei segnalare che aspettiamo la firma del decreto del decreto per la proroga sul modello unico. Sì. Sai che ti avevo annunciato, cioè è pronto questo decreto di proroga, ma riguarda per il momento solo qui i contribuenti soggetti di studi di settore, quindi attenzione, aspettiamo la versione finale del decreto, anche perché potrebbe esserci qualche termine nuovo per il 730 per quanto riguarda non noi contribuenti qualsiasi, ma i CAF, ma c'è tutto scritto sulle pagine certo del Sole 24 Ore di oggi. E poi attenzione, perché domani con il Sole 24 Ore ci sarà un IMU, uno speciale dedicato a IMU e TASI. Ah, pensavo un IMU da pagare, cioè compri il sole, cioè... Oramai sai, ci siamo un po' montati la testa. No, non è naturalmente così. Poi questi 38.000 euro che mi verrebbero per settimana, potrei dirottare una parte verso la Grecia, perché oggi anche noi, è vero, abbiamo delle pagine di analisi del voto, come è giusto, ma parliamo anche della questione della Grecia, che è un po' un mese decisivo. Ecco, se non vogliamo stare alla settimana decisiva, parliamo di mese decisivo. E leggendo la puntuale analisi di Vittorio D'Arold, ho scoperto che lì bisognerebbe trovare circa un 600 e passa miliardi. Quindi mi sembra che questi 38.000 euro da parte mia possano fornire qualche cosa. Certo. Ah, invece sai per che cosa potrebbe essere una settimana decisiva? Per il Parma Calcio. Perché entro il 9 giugno bisognerebbe prendere una decisione, forse si fa avanti un compratore, voglio dire, uno che sarà disposto anche a farsi carico dei debiti, non a mettere un euro come abbiamo visto, ma tutto questo sulle pagine di Finanza, dove tra l'altro si parla anche di un importante debutto in borsa, quello, e l'orario mi sembra giusto, di Zanetti, Zanetti Group, fanno del, si occupano di caffè soprattutto, sì. Quindi a quest'ora va molto bene, non è il capitano. Ma oggi, oggi è il momento naturalmente del condominio, perché è martedì, e certo. Anche se è il 2 giugno, auguri per la festa della Repubblica, ma anche se è il 2 giugno si litiga in condominio. La pagina sul condominio. Senti, in particolare sul neocondominio. Mauro, vogliamo salutare Annabella che ci scrive: mi sto preparando per andare al mare, voi che fate? Ah, già state lavorando, e vabbè. Sì, però per una cifra contenuta, come puoi dirle, no? Fanno 38 euro al secondo. 380 per la verità. Sto contentando di un decimo. Ah, di già, un vero, un decimo. Tutti no, un decimo di, ci mancherebbe altro. Vabbè. E poi mi ha chiamato invece prima Angelino e sì. Mi ha detto: ma che vuol di storytelling, Milan? Ah, è storytelling, chiedetelo a Renzi. Chiedetelo è storytelling, a Renzi. È storytelling, va bene. Tutto ciò premesso, l'auto è andata bene, più 10,78 sul mese, crescono le immatricolazioni, speriamo sia una buona notizia, di quelle dalle come dite, mani, no no scusami, dita incrociate, stavo dicendo mani incrociate, dita incrociate, ti parlo di auto perché adesso ti dico traffico! Alessandro Milan, il Pharrell Williams e l'informazione! Grazie cara ascoltatrice, saluto anche Antonella da Lecco che ci scrive: ci sono anch'io ad ascoltarvi. Oh, Valerio da Cernaglia in provincia di Treviso, così mi pare di aver capito, così come un ascoltatore che mi scrive: non sei l'unico a lavorare, il supermercato aperto turno 8:13-15:20, caro Cesare da Ferrara. E vabbè, ma d'altronde ormai si fa la spesa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, 366 bisestili, e quindi bisogna lavorare. Un grande abbraccio a tutti voi che ci ascoltate il 2 giugno e anche Gabriella che ci ringrazia di cuore perché come voi anch'io sono al lavoro. Evviva Gabriella. Allora diceva Mauro Meazza che la Grecia è un periodo decisivo, diciamolo chiaramente, per capire se c'è questo accordo con i creditori. Leggete Beda Romano a pagina 13 del Sole 24 Ore. Perché mancano pochi giorni alla scadenza per il rimborso di un prestito internazionale che Atene deve restituire al Fondo Monetario. E allora i 28 paesi stanno cercando di indurre la Grecia ad accettare nuove misure di politica economica pur di evitare il fallimento del paese. Nonostante progressi nei negoziati che durano da 5 mesi, la partita rimane estremamente incerta. E nel tentativo di sbloccare le trattative, i creditori stanno preparando una proposta d'intesa da preparare e da presentare al governo greco. Come ha spiegato ieri un funzionario comunitario, la speranza è terminarla entro la settimana. Eccola qui, potrebbe essere la settimana decisiva, insomma, per l'accordo Grecia. Fondo monetario. Oh, devo purtroppo dire, è successo ancora. Io quando l'ho letto sono rimasto gelato nel sangue e ho detto: è successo ancora. Ed effettivamente è successo di nuovo. È anche l'inizio dell'articolo di Giusy Fasano che racconta questa storia di cronaca terribile che riguarda una bambina, Gioia Vicentina. È stata dimenticata per 3 ore in auto dai suoi familiari. Era l'ultima di una famiglia numerosa composta da 6 figli ed è stata ritrovata morta. Dimenticata in auto a Vicenza, muore a 17 mesi. È una storia che ha dell'incredibile, come tutte queste storie ovviamente. Come mai Gioia dorme così tanto oggi? Così Kwame, 40 anni, madre di 6 figli... va verso la cameretta convinta di svegliare la sua bambina e poi dice: oddio, dov'è? Dov'è? Urla, e le è bastato guardare le facce stupite degli altri suoi figli per capire che nessuno l'aveva tirata fuori dalla macchina parcheggiata al sole da 3 ore dietro il palazzo. Gioia ormai era forse per asfissia morta sicuramente. L'hanno trovata tra i 2 sedili posteriori, fuori dal seggiolino dal quale sua madre stessa l'aveva slegata. È una vicenda incredibile. Kwame e Yeku sono due originari della Costa d'Avorio, ma ormai cittadini italiani, molto cattolici, cantano nel coro parrocchiale, non mancano mai una messa. Per il 13 di giugno avevano invitato i fedeli perché si sarebbero sposati e si vogliono sposare. Domenica mattina, dopo la messa, si attardano con gli altri fedeli parlando del matrimonio, bomboniere, gli inviti. Poi ritorna a casa, dove erano rimasti i due fratelli più grandi. Kwame e suo marito slacciano gioia dal seggiolino, prendono il passeggino dal bagagliaio. Un attimo dopo si distraggono con un vicino di casa. Due chiacchiere. Kwame dà uno sguardo ai suoi figli che scendono dall'auto e vedono che uno di loro spinge il passeggino verso casa e in automatico pensano: avrà preso la piccolina, l'avrà messa nel passeggino e si avvia verso casa. Chiudono la macchina e lasciano incredibilmente la bambina dentro. E da qui la tragedia, davvero incredibile, raccontata dal Corriere della Sera, questa dinamica a pagina 29, con anche l'intervista a Lucio Petrizzi, che il 18 maggio del 2011, docente di chirurgia veterinaria, si dimenticò in auto la sua bambina di 18 mesi, Elena, e ovviamente questo padre rivive nell'intervista al Corriere il dolore provato. Davvero, davvero, si pensa sempre non è possibile, eppure anche se raramente, fortunatamente, ma queste cose succedono. Ho disavventura per Yang Ambiwa, è il difensore della Roma che ha deciso il derby con la Lazio, l'eroe del derby aggredito dai laziali. Una pagina 17 del Messaggero. Era in via del Corso alle 5 di mattina, uscito da un locale, due sconosciuti visibilmente ubriachi al grido di "romanista di merda", inseguono il romanista Yang Ambiwa con una cinghia, cercano di colpirlo. Lui dice: sono stato salvato dal passaggio di un'auto della polizia. Ora la Digos cerca gli assalitori, ma siamo veramente a livelli penosi, a livelli incredibili anche di questo tipo di violenza nei confronti di un giocatore che ha fatto solo il suo mestiere, ha fatto gol per la Roma, che deve fare se una gioca per la Roma e ha fatto vincere la propria squadra. Vabbè, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi è ritornato al nostro Lorenzo Nespoli, qui in studio siamo in diretta su Periscope, che saluto anche il Lussemburgo, ci seguono sempre in Periscope dal Lussemburgo, ed eccola qui. No, io vi giuro, l'ho letta 5 volte questa pagina, l'agenzia matrimoniale per cuori solitari ma milionari. Su Libero, pagina 24, racconta questo milionario. Sentite un po': all'alba sprono nudo il mio destriero e, madido delle due scarse gocce di sudore, corro a Stanford a spiegare ai premi Nobel e capi di Stato il principio di indeterminazione di Heisenberg. Nel pomeriggio dipingo una veduta di Venezia dal mio palazzo sul Canal Grande. La sera mi cucino un semplice canard alla Montmorency con un buon cheval blanc del 1961. E allora vi domanderete voi: perché rompi noi e ci rompi noi che dobbiamo fare i conti con uno stipendio da fame? È semplice, perché sono solo. E allora mi sono rivolto alla Berkeley International, dove per $50,000 mi hanno trovato l'anima gemella. Ma vi rendete conto? Ma chi se ne frega? Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che te vozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei. Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Eccoci qui, cari ascoltatori, le 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, siamo in diretta anche oggi e saremo in diretta fino alle 9.30, state con noi ovviamente, vi do subito il numero per intervenire, 800 24 00 24. Parliamo di pensioni, torniamo a parlare di pensioni. Perché? Perché beh, lo sapete ormai che ad aprile la Corte Costituzionale ha bocciato il blocco della rivalutazione delle pensioni che era stata stabilita dal governo Monti con la famosa legge Fornero. E sapete che questo poteva creare un buco da 18 miliardi circa nei conti pubblici, per cui il governo è intervenuto con un decreto per cui verranno dati ma solo in parte dietro i soldi ai pensionati. È solo che c'è un pensionato che rischia di diventare, oggi scrive Libero, il pensionato dell'anno. Si chiama Rodolfo, 82 anni, è un ex dirigente delle Poste e grazie al suo avvocato ha ottenuto una ingiunzione al pagamento, alla restituzione di tutto quello che è dovuto dal Tribunale di Napoli. Il Tribunale di Napoli in pratica ha detto no, altro che una parte, dovete restituire 3.075 euro, credo per la precisione, il totale di tutto ciò che è stato bloccato dalla mancata rivalutazione delle pensioni. L'avvocato che lo ha difeso è l'avvocato Vincenzo Ferrò, che è qui con noi. Buongiorno avvocato e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei, ai suoi ospiti e a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto le voglio presentare anche il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti, che torna con noi. Il sottosegretario, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. E anche il segretario di Scelta Civica, segretario nazionale, e Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Avvocato Rienzi, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, avvocato Ferrò, intanto il suo assistito quanto avrà diritto di restituzione totale? Sì, è la somma, esattamente la somma a cui lei ha fatto cenno, insomma 3.075. Sì. Invece che quanto gli sarebbe aspettato in base al decreto del governo, più o meno? Ma guardi, il punto è questo. Allora, chiariamo un attimino la fase tecnica di tutta la faccenda. In effetti noi siamo partiti per chiedere la corresponsione di tutti gli arretrati relativi alla perequazione non corrisposta, sì, negli anni 2012 e 2013 per effetto del blocco delle perequazioni, certo, stabilito appunto dalla cosiddetta, chiamiamola così per capirci, riforma Fornero. Legge Fornero. Perfetto. Abbiamo chiesto appunto solo questa restituzione. Si è parlato, se mi consente un secondo, un piccolo excursus, sì, si è parlato molto della consecutio temporum tra la pubblicazione della sentenza che è avvenuta il 30 aprile, sì, il deposito del mio ricorso che è avvenuto il 13 maggio, mm-hmm, il decreto del governo, il Consiglio dei Ministri che si è svolto il 18 maggio, infatti la pubblicazione del decreto in Gazzetta che è avvenuta il 21 maggio, attenzione, data in cui è diventato immediatamente esecutivo e quindi è in vigore il 65, mm-hmm, il decreto 65, chiamiamolo sempre impropriamente ma per capirci il decreto Renzi, sì, e la pronuncia del giudice che è il decreto aggiuntivo in effetti che è stato depositato il 29. È stata data molta rilevanza a questa consecutio temporum. A volte e secondo lei non ne ha questa rilevanza? Cioè è stato ci arrivo. Se mi consente un secondo proprio. Sì, rilevanza ne ha, però valutiamo un concetto fondamentale. Il giudice si è trovato a dover emettere un provvedimento in una fase prettamente monitoria, quindi lui doveva, come ha fatto giustamente, tener conto soltanto di una domanda molto precisa, sì, pertinente alla richiesta, appunto come ho spiegato poc'anzi, della corrispondenza di alcune somme. Sì, è chiaro. È una norma. È chiaro, avvocato. Anche se un po' in avvocatese, però capiamo abbastanza tutti. Se riesce a essere un po' più semplice anche per il volgo, magari capiamo tutti. Mi scusi, allora. Sì. Ci proverò, sì. Quindi, in effetti, diciamola così, allora, la sentenza ha ripristinato uno status quo ante, no? Ha riportato tutto. Ha usato la macchina del tempo, cioè sì, portato indietro, è vero, a prima della legge Fornero. Il giudice solo di questo doveva tenere conto, insomma, di l'altro, perché guardi, bene, ora le dico una cosa importantissima e poi chiudo e mi taccio. Dunque, eventuali questioni, sì, afferenti il decreto 65, il decreto Renzi, insomma, no? Sì. Quello del 21 maggio, a mio avviso, e in base alla mia esperienza, verranno trattati in sede di eventuale opposizione. Va bene. Avvocato, però mi permetta. Mi permetta, lei deve parlare un po' più chiaro, perché, perché sa, non siamo in un tribunale, allora mi faccia capire, il suo assistito avrà indietro tutti questi soldi in maniera definitiva, anche se la sentenza è arrivata prima del decreto del governo? Quale sentenza, mi scusi? La sentenza che dice che devono essere restituiti tutti i soldi. È esecutiva, allora, non è una sentenza, è un decreto ingiuntivo. C'è una differenza enorme perché il decreto ingiuntivo può essere opposto. Certo, ma diciamo facciamo caso che l'opposizione, cioè che vinciate voi, insomma, verranno restituiti tutti i soldi? Facciamo tutte le ipotesi? Sì. Allora, facciamo l'ipotesi che l'INPS proponga opposizione, noi ci costituiamo chiaramente, sì, e facciamo valere quelle che riteniamo siano. Facciamo caso che vinciate voi, arriviamo a un punto finale. Che vengono affermate. Perfetto. Allora, a questo punto partiamo con un'azione esecutiva e ci andiamo a prendere ciò che il giudice ha ritenuto ci spetti. Perfetto. Questo nonostante il decreto Renzi, per lei, nonostante il decreto Renzi, il decreto ingiuntivo, se voi arrivate a vincere tutte le opposizioni, avete ragione voi e prenderete tutti i soldi. Del decreto Renzi si parlerà in sede proprio di opposizione. È chiaro. Quella è la sede delegata. È chiaro, è abbastanza chiaro. No, io vorrei capire intanto al sottosegretario all'economia che cosa si profila come rischio, sottosegretario Zanetti, perché questo è quello che abbiamo detto varie volte, no? Il rischio che ci siano cause come questa che possano portare ad altri ricorsi e quindi altri decreti ingiuntivi. Voi l'avete messo in chiaro? Il rischio che possano esservi ricorsi è sempre ovviamente presente, esistente, questo è uno stato di diritto dove ciascuno ha sacrosanto diritto di ricorrere per far valere posizioni individuali che ritiene gli spettino, però tra le righe anche l'avvocato stava spiegando tutto, cioè il decreto ingiuntivo che hanno ottenuto l'hanno ottenuto sulla base della fotografia del decreto Salva Italia nella parte in cui è stato giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale, quindi è stato operato un ricalcolo e il Tribunale ha detto sì, giusto questo ricalcolo, questo decreto ingiuntivo, questo importo te lo do. Poi una volta che si va in opposizione al decreto ingiuntivo, essendo sopravvenuta un'altra legge che il giudice non può disapplicare, sì, nell'istante in cui gli viene fatto presente, il giudice non potrà che dire è vero, è arrivata questa legge, quindi tu INPS che fai opposizione, hai ragione, i soldi ve li diamo solo fino a dove dice la legge. Quindi lei mi sta dicendo, sottosegretario, che quello che leggiamo sui giornali, prima causa che potrebbe dar vita ad altre, è che in realtà in opposizione questa causa cadrà, ecco, almeno... È inevitabile, dopodiché è chiaro che cause possono moltiplicarsi, ribadisco, ciascun cittadino italiano ha diritto, se vuole, di farla. Probabilmente i decreti ingiuntivi li potrà anche ottenere, anche se poi è da vedere nell'istante in cui questa legge diventa conosciuta, non come è stato in questo caso che era un po' a mezzi dei giudici in modo pieno, e può anche essere che i decreti ingiuntivi non vengano rilasciati, ma in subordine, una volta che si entra nella fase di opposizione, è una legge che c'è, il giudice non può che prenderne atto. E quindi questo è, ha capito anche Renzi, voi del Codacon, so che fate tutte le class action, volete portare avanti le cause collettive, ma non è che si può, no? Io tante volte abbiamo discusso, Renzi, anche su questo, secondo me anche i pensionati devono fare sacrifici se li fanno tutti, e certo anche i politici, soprattutto anche i politici, però se li fanno tutti e li fanno anche i giovani, anche i pensionati hanno la possibilità di fare dei sacrifici. Però Renzi, come? Questo è un discorso politico e quindi non è questo il punto, diciamo, perché poi il governo può trovare i soldi invece che con i sacrifici dei pensionati in altro modo, abbiamo sempre detto, basta eliminare i 500 enti inutili, eliminare un po' di aerei F-35 che non ci servono per fare la guerra all'ISIS, eccetera eccetera, quindi sono scelte politiche sulle quali però io non voglio entrare. Certo è che quando si tratta di trovare soldi o si trovano nella benzina o si trovano addosso ai pensionati. La sentenza del giudice di Napoli è ineccepibile, il problema giuridico è apparentemente un po' complesso, perché chi ha avviato l'azione prima dell'entrata in vigore del decreto, come è stato questo pensionato che bene ha fatto a fare quel decreto ingiuntivo, e come abbiamo fatto noi del Codacons con la nostra class action pubblica in base alla legge 2009, che abbiamo notificato la diffida prima del 21 maggio, ha diritto di avere una decisione sulla base di quel momento, e in quel momento non c'era il nuovo decreto. Però il sottosegretario ci dice, che adesso il decreto c'è, quindi in secondo perfetto. Allora, quindi se i giudici, come è giusto che facciano, sosterranno che chi ha avviato prima l'azione, e la nostra class action riguarda tutti i pensionati, non solo uno, ha diritto ad avere i soldi, perché in quel momento, perché si radica il momento della, del diritto, diciamo, della decisione al momento in cui tu chiedi di far valere un diritto, c'era il diritto, perché non c'era più la brutta legge Monti e non c'era ancora la brutta legge Renzi, allora dovranno restituire tutto. Naturalmente faranno opposizioni, eccetera, chiaro, eccetera, e ci saranno anche altri ricorsi che partiranno dopo il decreto. In quella sede la procedura sarà diversa, perché sia nella sede dell'opposizione sia nella sede di nuovi ricorsi successivi, ora il decreto, allora, c'è. Lì bisognerà far valere la incostituzionalità del nuovo decreto, ecco, che ha violato praticamente il disposto della Corte Costituzionale, cosa che non poteva fare, doveva eseguirla. Sottosegretario Zanetti, mi sembra che la vicenda in Italia è così, è nata con un pasticcio, evidentemente un pasticcio sancito dalla Corte Costituzionale, e ora rischia di essere travolto una valanga di ricorsi. Intanto chiedo anche a lei, sottosegretario, se molto discusso sulla questione che se la Corte Costituzionale dovesse in qualche modo tenere conto anche del possibile buco economico che si poteva aprire nei conti dello Stato, e la Corte Costituzionale dicono ma no, noi facciamo solo le sentenze e vediamo se tutto è a norma di Costituzione, non dobbiamo preoccuparci di questo. Secondo lei invece si deve preoccupare la Consulta di delle sentenze che emette dei possibili buchi finanziari? La Consulta si deve preoccupare solo dell'applicazione della Corte, della Costituzione, e quindi della costituzionalità delle leggi che sono messe al suo vaglio. È un dato di fatto però che da un po' di anni a questa parte c'è l'articolo 81 della Costituzione che sancisce il principio dell'equilibrio di bilancio. Quindi è indubbio che anche nelle mettere valutazioni che riguardano la costituzionalità debba tener conto di questo aspetto, e peraltro lo ha fatto in alcuni casi anche recenti, si pensi al caso della Robin Tax, una tassa che hanno dichiarato illegittima, ma al tempo stesso hanno detto che non poteva essere per il passato restituita, ovviamente da quel momento in poi non si doveva più pagare, proprio per ragioni legate all'articolo 81. Quindi credo che nell'istante in cui c'è l'articolo 81, come è successo in altre pronunce, questo aspetto vada valutato dalla Corte. Ma voi temete, perché è un principio di carattere costituzionale. Per il resto le temete questi ricorsi di incostituzionalità? Ma adesso mi pare che in questa chiacchierata tra tutti i i contorni si stiano chiarendo, e cioè nei termini in cui effettivamente sono, e cioè nell'istante in cui uno fa richiesta sulla base del ricalcolo puntuale, come se la torre non ci fosse, il ricalcolo, se è corretto, viene dichiarato come tale e può anche esserci il decreto ingiuntivo. Nell'istante in cui però si va a ragionare su un'opposizione fatta al decreto ingiuntivo, perché si dice che adesso il decreto che ha limitato i rimborsi, il giudice non può che prendere atto dell'esistenza della legge, e al massimo i ricorsi ricominceranno su un piano di incostituzionalità. Io vorrei però, quindi insomma campa cavallo, io vorrei però anche dire che non è vero che il decreto non ha applicato la sentenza. La sentenza diceva chiaramente che la specifica gradazione data quella volta dal decreto Salva Italia in un momento tremendo era troppo rigida. Voi l'avete fatta un po' più, l'avete fatta un po' meno rigida. E noi abbiamo applicato la sentenza con una delle possibili modalità di gradazione. Poi se uno dica non era abbastanza, è chiaro che lì entrano in gioco i piccoli. No, però intanto io vorrei tornare un attimo dall'avvocato Ferrò, ricordo anche il numero verde per intervenire, 800 24 00 24, quindi dopo la pubblicità avremo anche qualche ascoltatore. Avvocato Ferrò, mi sembra di aver capito che la questione, secondo il sottosegretario Zanetti, è questa: in momento di cui ci sarà un'opposizione presumibile da parte dell'INPS, a quel punto il giudice dirà nel frattempo c'è un decreto, e quindi il decreto Renzi, che chiamiamo per semplicità, e quindi questo decreto ingiuntivo non vale più, perché in base a questo decreto Renzi non vi possiamo ridare indietro tutti i soldi. E lei teme che vada a finire così, avvocato? Allora, il sottosegretario in pratica ha centrato chiaramente il nervo scoperto della questione. No? Appunto. Ora, in effetti ha sottolineato, appunto, ha dato anche, ha fatto un cenno all'articolo 81 della Costituzione, vabbè, in effetti, chiarendo però preliminarmente quello che è giusto, che era giusto chiarire, ovvero che la Corte Costituzionale è un organo che è preposto a far attuare i a livello legislativo, cioè a trovare, a far a stabilire che una legge sia conforme al dettato costituzionale. Punto. Ora che abbiamo? Abbiamo un decreto 65, il quale all'articolo 1, è vero, esordisce dicendo: al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale, sì, eccetera, eccetera, eccetera. I presupposti sono giusti, sono i contenuti che non lo sono, a nostro sommesso avviso. Sì. Perché nel momento in cui si ottempera in maniera solo parziale alla sentenza, e beh, a mio avviso in effetti non è stata rispettata la Costituzione, ma non sarà questo l'oggetto del decreto ingiuntivo se viene rispettata la Costituzione. Poi dopo, se lei vorrà fare ricorsi di incostituzionalità, è una cosa successiva, ma in fase di opposizione questo decreto ingiuntivo cadrà. Perché è subentrato l'ha detto lei, è stato deciso il decreto ingiuntivo prima del decreto del governo Renzi, e quindi il giudice adesso dirà: oh, c'è un decreto Renzi. No, scusi, forse non è chiaro. Il decreto ingiuntivo è stato concesso il giorno 29 aprile, maggio. Ah, e c'era già il decreto Renzi. E allora, c'era già, certo, allora, che c'era già. Ma allora, non poteva tenerne conto in sede monitoria. Senta, mi faccia capire una cosa. Tenerne conto, mi perdoni, e sì, concludo. Il giudice deve tenerne conto eventualmente, soltanto nella fase di opposizione, ed è lì che dovrà anche decidere il giudice dell'opposizione se rimettere o meno gli atti alla consulta. Comunque, io dopo la pubblicità voglio concentrarmi, qui abbiamo parlato anche un po' di fasi di tecnicismi e tecnicalità, vorrei dopo la pubblicità fare questa domanda ai miei ospiti, anche agli ascoltatori: è giusto secondo voi, al di là di tutto delle sentenze, dei decreti ingiuntivi, delle sentenze della Corte Costituzionale, che anche i pensionati, come dico io, debbano fare dei sacrifici, mentre Renzi dice: ma no, ma che sacrifici, fate, prendete i soldi da altre parte, fate sta benedetta revisione della spesa, tagliate gli F-35, tagliate gli enti inutili, tagliate i soldi alle politica, tagliate le poltrone, ma non rompete le palle ai pensionati. E il sottosegretario Zanetti invece è colui che aveva già definito immorale, non per una patente di immoralità nei confronti dei pensionati assolutamente, ma immorale in questo momento dare indietro tutto, immorale per la politica fare una scelta di dare indietro tutto ai pensionati. Questo è il punto centrale. Tra un attimo. Allora, le 8:39 minuti. Avvocato Renzi, come l'ho messa io il problema, mi sembra di capire che è un'impostazione che non le piace, no? Questa cosa dei pensionati. Secondo me è un po' anche sbagliata, perché se si va a vedere, è uno studio che ha fatto la CGIL, non noi, il sacrificio che è stato chiesto ai pensionati e quello che è stato chiesto ai possessori di azione e titolo di Stato, si vede che tra chi aveva per esempio 250.000 euro da parte, certo non era un indigente, stava bene, eccetera, eccetera, ecco, questo qui perde soltanto per un paio di anni lo 0,15%, lo 0,1%, che sul suo patrimonio, che significa 250 euro per il 2012 e 375 euro per l'anno dopo. Il pensionato invece, con quella stessa legge, si è portato una penalizzazione che dura tutta la vita. Quindi la somma che perde il pensionato sono migliaia, migliaia e migliaia di euro. Allora, se il pensionato poverino, la pensione gli spetta perché ha messo da parte lui i soldi, sì, del suo, sì, stipendio. Ma sì, da, beh, è d'accordo, eccetera, però, eccetera, però eccetera. Renzi, allora abbiamo discusso tante volte, no? Il sistema retributivo prima, contributivo adesso. Io non voglio mettere, quando faccio questo discorso mi scrivono: ah, ma tu vuoi fare lo scontro generazionale, mettere gli anziani contro i giovani, o dire sono responsabili gli anziani del fatto che i giovani non prenderanno la pensione. No, la responsabilità è sempre della politica, non voglio fare uno scontro incontro tra persone. Però voglio dire, se abbiamo cambiato il sistema pensionistico con la legge Fornero, per cui le generazioni attuali non prenderanno più la pensione come gli attuali pensionati, ne prenderanno meno se la prenderanno, in questo dico, voglio dire, diamoci tutti una mano, no? Ma non si potevano prendere dai patrimoni, ecco, non voglio fare il comunista. Un po' sì, un po' sì, un po' sì, però lo fa un po'. Si alzava un po' la percentuale del prelievo sui patrimoni, sulle azioni, tutti questi soldi che la gente tiene in banca e così via. Va bene, è una considerazione politica, certo, è una considerazione. È una considerazione politica, sottosegretario Zanetti. Si dice sempre che il pesce puzza dalla testa. Allora, se la politica desse delle risposte convincenti, dice Rienzi, magari tagliando dove si può tagliare, non si capisce allora perché si debba andare a prendere i pensionati. Lei che disse questa frase per la quale un po' la inchiodarono anche l'immoralità di restituire indietro tutto, Zanetti. L'immoralità l'ho detta e l'ho detta per primo, poi devo dire che le cose che io dico alla fine le stanno dicendo un po' tutti, la ribadisco, era legato ovviamente a un contesto preelettorale in cui cadeva la sentenza, rispetto al quale una politica che avesse messo la testa sotto la sabbia per farsi bella elettoralmente, posto che sappiamo bene quanto le pensioni contano in questo paese, avesse restituito tutto, facendo sì che a quel punto chi non era ancora pensionato e aveva fatto sacrifici importanti per la sostenibilità del sistema, li ricordava lei prima, scopriva di avere solo sacrifici acquisiti, mentre tutti quelli che erano in pensione, a prescindere dal livello dei contributi versati, a livello del livello della pensione, tutti hanno solo diritti acquisiti, la politica avrebbe fatto una scelta immorale. Ma io infatti sono un po' d'accordo, non trovo scandaloso questo discorso. Perché gli esodati devono fare dei sacrifici e i pensionati no? Perché i giovani devono fare dei sacrifici e i pensionati no? Non lo so. Se non fossi più che convinto di quello che ho detto, non l'avrei ovviamente detto, ma ribadisco, poi alla fine, al di là dello sconvolgimento iniziale, forse per il fatto stesso che un politico abbia usato, si sia permesso di usare la parola moralità, mi sembra che nel concreto tutti siano venuti su posizioni di questo tipo di buon senso, anche perché, ripeto, vede, non è che non siano stati chiesti in quel momento, ripeto, drammatico, veramente tremendo del nostro paese, non siano stati chiesti sacrifici anche ai patrimoni. La tassazione sulle rendite finanziarie aumentata, la tassazione sugli immobili, come tutti ricordano sempre, tra il 2011 e il 2012 è più che raddoppiata, è stata aumentata l'IVA. Ecco, se noi avessimo restituito tutto a tutti, nell'immediato magari si prendevano un sacco di voti alle regionali, ma poi l'anno prossimo l'IVA doveva aumentare anche per i consumatori con pensioni minime, per riuscire a coprire quel buco. Poi dopo facevano altri ricorsi al CODA con se stessi. L'IVA non aumenterà come il governo si è impegnato a fare. Perché non aumenterà? Perché stiamo facendo per l'appunto quella spending review che già impegna risorse per circa però 10 miliardi su quel fronte. Uno dirà, allora dovete tagliare per 30 miliardi. Guardate, lasciamo perdere, inutile fare così. Già riuscire a fare questi risultati, 8 miliardi quest'anno, come ricordato anche la Sottarelli, 10 miliardi sul prossimo, scongiurare l'aumento dell'IVA, sono impegni non da poco ed è giusto. Però, che quando non li realizziamo tutti ci guardino peraltro. Rienzi so che taglierebbe di più. Rienzi, mi faccia capire, devo concludere nel ringraziare e salutare tutti. Voi procedete con queste class action e cosa puntate a far riottenere tutto indietro ai pensionati? A far ottenere tutto indietro, ma soprattutto a fare una questione nuova alla Corte Costituzionale dove si dica che la scelta politica, anche per far quadrare il bilancio, come dice l'articolo 81, va fatta sulla base delle disponibilità delle persone, va fatta sulla base di una vera possibilità di sopravvivenza, perché ricordiamoci che i pensionati mantengono tutte le famiglie oggi con la disoccupazione. Sì. Senza il nonno pensionato o il padre pensionato, i giovani non avrebbero di che campare. Ho capito, allora, andiamo a toccare lì. Se si dessero, a altrove, si dessero un po' più di lavoro ai giovani, vedi che questo problema è risolto automaticamente. La spending review. Ma dove sta? Cottarelli è sparito, le cose non sono state fatte, i stipendi dei consiglieri regionali sono sempre gli stessi, i vitalizi sono stati eliminati solo qualche giorno fa, ma questo non va bene, gli enti inutili, gli F-35, non risponde il sottosegretario perché lui vuole fare le sue scelte giustamente politiche. Ma lui dice che già... Viva gli americani che ci vendono gli F-35. No, ma non credo... No. Adesso in chiusura mi dice sta roba Zanetti, lei è un americanista, non lo so perché... Zanetti, questo è il problema. No, sinceramente non mi pare di essere particolarmente scatenato su questo fronte. la spesa comunque per la nostra difesa no, è tutt'altro che in crescita in questi anni, e credo che tra un po' di tempo avremo anche di che pentircene. Ecco. Va bene, ma fermiamoci qui, sennò apriamo un altro capitolo che in questo momento non riesco ad affrontare. Ringrazio Carlo Rienzi, presidente del Coracons, Enrico Zanetti, sottosegretario dell'economia, e l'avvocato Vincenzo Ferrò. Avvocato, torneremo a disturbarla quando questo decreto ingiuntivo si capirà se c'è l'opposizione, come va a finire, perché è interessante ovviamente, e tutti gli italiani sono interessati a capire come va a finire. Tra poco, dopo il traffico, tra un minuto avremo in onda, già con noi, lo saluto, il rettore della Sapienza Università di Roma, il professore Eugenio Gaudio. Buongiorno rettore. Buongiorno a lei. Sono da lei tra un minuto, perché c'è questa polemica che non si placa sulla sua partecipazione a un concorso Miss Università, diciamo così, ma ci spiegherà tutto tra poco. Allora, il rettore della Sapienza, Eugenio Gaudio, ha partecipato insieme ad altri a un concorso, la serata Miss Università 2015, la studentessa più bella e sapiente degli Atenei italiani, lo scorso 6 maggio. Da allora, un po' lentamente e poi sempre più prepotentemente, è scoppiata questa polemica, con tanto, caro rettore, di appello di alcune docenti, personalità, donne ovviamente del mondo universitario, che dicono che questa è una scandalosa macchia sull'Ateneo, e dicono che lei non sia compatibile più con il suo ruolo istituzionale, no? Per questa. Come risponde lei, rettore? Ma rispondo che francamente come cittadino sono esterrefatto. Distinguiamo i fatti prima, per vedere quali sono dalle opinioni. Sì. I fatti sono questi. Questa manifestazione è una manifestazione che ha oltre 20 anni di sì. vita. E io sono al primo anno di rettorato, vengo invitato quotidianamente a una serie di manifestazioni, innanzitutto manifestazioni di tipo scientifico e culturale. La Sapienza fa 700 manifestazioni aperte culturali sì. All'anno. E c'è scappato anche questo invito, insomma. No, ma c'è un po' di differenza fra le cose. Cioè, le manifestazioni culturali che sono quelle istituzionali a cui io partecipo tutti i giorni, partecipo in aula dai 3 ai 4 congressi, dalla cyber sì, certo. alla chirurgia della aorta. Poi ci sono delle manifestazioni di tipo, diciamo così, fra virgolette, sociali, alcune fatte dai docenti, altre fatte dagli studenti, che sono generalmente la sera, e a cui il rettore in genere, in quanto rappresentante di una comunità accademica, se posso fare un banale paragone con il sindaco sì. del paese, viene invitato costantemente. E essendo il primo anno della mia del mio rettorato, io mi regolo in base anche alla situazione, alla prassi sì. consolidata, cioè dei suoi predecessori, quello come ci si è regolati in passato. E cosa, allora io sono stato invitato e la prima volta declinato, perché avrei passato volentieri la serata a casa, giornate di circa 14 ore, cui io anche o sono il pianoforte o dei libri, perché vabbè, insomma, però è capitato, rettore, che in questo caso. No. Ma andiamo avanti, andiamo a vedere i primi fatti, così ognuno poi si fa. No, ma sa, perché ho solo 6 minuti, non posso, le chiedo solo un po' di sintesi ho finito. I miei studenti hanno insistito perché io partecipassi. Sì. Ho fatto verificare dalla segreteria del rettorato quale fosse stato il comportamento in precedenza. Mi è stato detto che i miei predecessori hanno partecipato. Ho fatto verificare poi quale fosse la composizione delle persone invitate. Mi è stato detto che c'erano un giudice di corte d'assise, sì. delle illustri giornaliste ben note, capostruttura di Rai, un'altra nota conduttrice televisiva donne, un collega di Tor Vergata, sì. collega della Cattolica, e di fronte alle insistenze delle studentesse e dei miei studenti sono stato. Senta, ma cosa ne pensa quindi di questa pelle strumentale? Come lo definisce? Devo essere sincero? Sì. Purtroppo ci sono due cose tipicamente italiane. Sì. A, la superficialità. Perché io non penso che chi addirittura da oltre manica abbia preso iniziative di questo genere, no? Tipo appelli, cose, sappia esattamente di cosa si trattasse e cosa è successo. Sì. Per sapere di cosa si trattasse basta leggere intervista su Repubblica. Quindi la superficialità, dice, la superficie tipica nostra. Sì. E poi? Il secondo, purtroppo in questi mesi ho preso delle iniziative un po' impegnative, tipo quelle sulla legalità e sulla trasparenza. Ah, la vogliono far pagare, dice. Non lo so, io non voglio dire nulla, voglio dire quello che ho fatto. Però mi ha colpito un'intervista lei sulla stampa, una domanda di Maria Corbi, ha detto, ma lei sua figlia la manderebbe a un concorso? Sì. E lei ha detto no. Allora io non ho mai partecipato, perché bisogna distinguere nella vita le convinzioni private. Io non sono mai andato a concorsi di questo genere. Io ripeto, la serata, se posso, la passo suonando Bach e Chopin. Bach e Chopin. Obblighi, dagli obblighi che derivano da una carica. Sì. E ripeto, il rettore è come un sindaco di una comunità accademica. Ah. Quando i miei studenti mi invitano, insistono, e io verifico come ho fatto con prudenza da amministratore pubblico, quale sì. fosse stata la prassi precedente. Sì, sì, ma questo sì. Però le chiedo, in generale, lei è intervenuto come se fosse appunto il sindaco di un paese a presenziare come rettore della Sapienza. Ma le chiedo, come suo giudizio, iniziative di questo genere, cioè Miss Università, sviliscono o no il ruolo della donna? Le dico subito, chiariamo una cosa, che questo la Sapienza non ha mai organizzato. Sì, no, chiaro. No, ma lassù. Le posso dire, è chiaro a lei. Purtroppo non è chiaro perché non era un qualcosa della Sapienza. Beh, però erano studentesse della Sapienza che hanno fatto. No, erano studentesse della Sapienza, di Tor Vergata, di altri. Ecco. Devo dire che ancorché io non ami e io non promuova manifestazioni di questo genere, devo dire che in quella serata, come hanno detto le stesse partecipanti, come sarebbe facile chiedendo alle vostre colleghe che erano presenti in giuria, non c'è stato nulla di volgare. Nulla di meno che corretto, le domande che ci hanno chiesto di porre erano sulla qualità e sulla motivazione degli studi. Però delle, insomma, chi ha vinto, io l'ho visto, è una bellissima ragazza, cioè non è che anche premiata, immagino, la bellezza, no? Se, no. Ma guardi, noi abbiamo dato praticamente il massimo dei voti a tutti, perché non era in realtà una gara, ma era un'occasione, ripeto, così di tipo sociale. 30 tutti. Vado avanti. È ovvio che se avessi saputo, o se avessi visto che in passato ci fosse stata una reazione di questo genere, e non sarebbe andato questo. È ovvio, perché non è che mi metto, ma dato che in passato per oltre 20 anni questo non è stato fatto, non c'è stata nessuna sensibilità urtata, eccetera. Temo che le iniziative prese negli ultimi mesi sul fatto di mettere online tutti i bilanci della Sapienza, tutte le gare d'appalto, tutte le retribuzioni. Ah, lei dice questo ha dato fastidio a qualcuno. Per concludere, rettore. L'Italia purtroppo che a pensar male si fa peccato. Si fa peccato una volta ci si coglie, perché dopo 20 anni di una manifestazione del genere. E poi non capisco perché non venga chiesto alle vostre colleghe che erano presenti qual è la loro opinione. No, perché sa, il rettore è un pubblico. Lei è un dipendente pubblico, sebbene importante, no? Quindi certo. È un dipendente dello Stato. Ma ho un rapporto con gli studenti diverso. Sì. Gli studenti sono i membri della nostra comunità. No, ma è chiaro, questa è la sua posizione, è molto chiara. Mi sembra di capire, rettore, per chiudere questa vicenda, che tanto tra 2 giorni non avrà più spazio sul giornale. Non fa onore al paese. Lei dice. Per chiudere questa vicenda, perché l'hanno paragonata in questo appello all'idea, all'immagine del bunga bunga nel mondo. Evidentemente ci sono delle connotazioni appunto di tipo politico. Politica. Non di tipo accademico, da cui io rifugo, perché io non faccio politica, io faccio politica accademica, io faccio ricercatore, io ho 2 brevetti sulle cellule staminali epatiche, che sono le cose di cui mi sono occupato, abbiamo fatto il primo trapianto di cellule staminali epatiche con le mie ricerche. Francamente questi argomenti sono secondari. No, ma questo sì, infatti tra 2 giorni non ci sarà nulla sui giornali. La ringrazio, Eugenio Gaudio, rettore della Sapienza all'Università di Roma. Dopo il giornale radio siamo ancora in diretta, fino alle 9:30, state con noi. Un saluto da Maurizio Melis. L'evoluzione della mobilità degli italiani dallo scenario attuale al 2020-2030. Il titolo di una ricerca che la NIASA, ovvero l'Associazione del Noleggio Veicoli di Confindustria, ha condotto in collaborazione con il Censis. Che cosa ne è emerso? Alcuni aspetti sono ben noti, come il calo di veicoli matricolati dai privati, circa 1,5 milioni all'anno dai 2,5 che erano qualche anno fa. Effetto della crisi, ma anche di un cambio di approccio nei confronti dell'automobile, percepita sempre meno come uno status symbol. Meno noto è che sono raddoppiate le immatricolazioni dei veicoli destinati al noleggio, tra cui quelli destinati al car sharing, che è un fenomeno letteralmente in esplosione nelle grandi città ed è destinato a rafforzarsi con l'arrivo sulle strade, per quanto diciamo non imminente, di connected car e veicoli autonomi, come ormai la famosa Google Car. Ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:50. Buona giornata. Siamo qui. Sono Alessandro Milan e siamo in diretta fino alle 9:30 anche oggi e poi da domani ritorneremo dalle 6:30 alle 9. Allora, sono rimasti due ascoltatori indietro, Luciano da Roma e Domenico da Chieti. Vorrei dare loro la parola. Luciano da Roma, buongiorno. Che buongiorno dice? A lei, signor Milan, buongiorno a lei. Come sta? Io volevo osservare che l'espressione del sottosegretario sull'immoralità di restituire ai pensionati la pensione che è patetica addirittura. Patetica, io, lei dice. Patetica, perché? Perché io per esempio ricordo, mio nonno è stato una volta deputato e due volte senatore. I benefici che aveva mio nonno erano 20 biglietti gratuiti del treno per la famiglia. Sì. Il proprio medaglino per poter viaggiare gratuitamente lui sul treno, sì. E due tessere del cinema, una del cinema Barberini e l'altra del Super Cinema. Quindi sì, sì. Tutto il resto lui pagava di tasca propria. Beh, ci mancherebbe, però anche quello già, voglio dire. Lei si rende conto? A parte questo, la pensione che io ho percepito nella mia vita lavorativa di 43 anni è una pensione contributiva, quindi è una remunerazione stipendiale differita nel tempo che l'imprenditore si teneva. Sì, certo, lo so, però se, andava con, se andasse con la retributiva non sarebbe la stessa cifra, eh? Ma io avrei sicuramente quello che ho con i contributi versati da in 43 anni di attività, prima di tutto. E comunque non capisco perché dobbiamo essere sacrificati noi, poveri pensionati. Io ho 85 anni. Sì. Quanto prende di pensione, posso saperlo? Ma questa dovrebbe essere la mia una pensione d'oro, perché è di 3.100 euro. Netti. Quindi ecco, e io naturalmente... A netti, Luciano? Netti? Netti 3.100? Netti. Io però sono stato dirigente, diciamo, di certo livello, ho svolto la mia attività con le mie responsabilità, credo di aver dato molto a chi mi stava senza intorno, dubbio. Però, molto allo Stato anche. No, però perché... certo, Luciano, no, perché almeno do spazio anche Domenico da Chieti. Lei dice, perché devo sacrificarmi io con tutto quello che ho contribuito? Ma sicuramente, però 3.100, cioè l'idea è o si fanno i sacrifici o non si fanno, e se si fanno, si fanno tutti. Anche e soprattutto la politica, spending review, revisione della spesa, sì. Però se c'è tutto questo, anche i pensionati, perché no? Non ho ancora capito perché debbano essere esentati. Comunque, Domenico da Chieti, buongiorno Domenico. Vulcanico, dottor Milan, buongiorno a lei e radioascoltatori. Vulcanico, Domenico, oggi 2 giugno non tanto, comunque... No, io l'ascolto dalle 6 la mattina, tutte le mattine. No, dalle 6 e mezza, non dica dalle 6 che poi mi fa iniziare alle 6. No, 6 e mezza, Domenico, sei sbagliato. 6 e mezza, vabbè, dica. Siete, come conducete trasmissione, siete affascinante. No, le volevo solo dire una cosa, io premetto, sono un artigiano che tra 35 anni verso i contributi, no? Sì. Andrò in pensione con una pensione, forse 600-700 euro al mese, se tutto va bene. Contributi sudati da me, non come tanti funzionari che sono gli enti che versano i contributi e fanno gli sviluppi. Vabbè, invece se lei se ne è sudati sull'unghia fino all'ultimo euro. Vabbè, comunque, poi un'altra cosa che ci tengo a precisare, no? Questo piagnistero ipocrita, ci tengo a precisare, del blocco delle pensioni, perché sì, in Germania non tutti sanno che ci sono appena 18 pensioni che superano le 3.000 euro mensili. Oh. Appena 18. Questo non lo in sapevo. Svizzera nessuno lo dice che gli alti funzionari, ex deputati, sì, prendono la pensione di un metalmeccanico. Perché un pensionato, a mio avviso, con 1.500 euro al mese può vivere tranquillamente. Accidenti, Domenico, questa 18 pensioni in Germania sopra i 3.000 euro, questa devo subito approfondirla. Dobbiamo chiedere al nostro amico Claudio Giardina, corrispondente della Germania, del Giorno, ogni tanto lo chiamiamo. Voglio subito approfondirla, guardi, assicuro che farò una chiamata e voglio capirla questa cosa. Domenico, io la ringrazio, ma devo chiudere con gli ascoltatori, perché voglio raccontarvi alcune storie, intanto a partire dai nostri corrispondenti, dai nostri collaboratori, che vedremo più avanti, e da una nostra inviata, Valentina Furlanetto. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori. Ciao Valentina, tu racconti, stai già raccontando nel giornale radio, ti trovi in Giordania, in questo momento ci dirai bene dove, al confine con la Siria, per un viaggio di che tipo? Allora, io sono in questo momento, Alessandro, praticamente sulla Luna, a Azraq, che è un campo profughi creato un anno fa qui in Giordania. Siamo a 2 ore di strada dalla Siria, 7 ore dall'Iraq, nord-ovest della Giordania, per capirci, sulla Luna, perché è proprio in pieno deserto. Qui ci sono 14.000 siriani rifugiati, è un campo profughi nuovissimo, ovviamente i problemi ci sono, non c'è elettricità per i compound, c'è poca acqua, la distribuzione è difficile, e il primo villaggio è a 15 km di distanza. Qui arrivano i rifugiati, gli ultimi rifugiati siriani che riescono a passare il confine, perché alcuni varichi sono stati proprio chiusi. Ieri siamo andati a Tashibat, proprio al confine siriano, dove è un confine che prima era aperto, adesso è chiuso ufficialmente. Ci sono dei passaggi di feriti, di bambini feriti che vengono supportati, aiutati dall'UNICEF e dalle ONG presenti, ma in realtà tutti i valichi a destra sono stati chiusi. Arrivano invece da nord-ovest, e questi proprio di Azraq sono rifugiati che si trovavano a Damasco, ad Aleppo, nelle zone quindi controllate dall'ISIS. Abbiamo sentito delle storie di queste famiglie proprio che sono state perseguitate dall'ISIS, si sono dovute rifugiare da vicini, poi sono riuscite a scappare, e spesso in questo periodo riescono a passare soltanto perché magari dei bambini sono fortemente feriti, parlo di mutilati, di persone che hanno subito ma è chiaro, fuggono anche da situazioni di terrore. Certo, lì Valentina, tu hai conosciuto persone che poi magari pensano anche di andare in posti migliori, in posti dove si viva meglio, e sappiamo che anche dalla Siria molti sono arrivati in Italia. C'è qualcuno che ha l'idea di poter andare in Europa, di poter andare in posti dove si vive meglio? Guarda, la percezione che c'è qui dell'Europa è abbastanza vaga. Ovviamente tutti vedono l'Europa e l'Italia come un sogno, un possibile miglioramento della loro vita, però la Giordania ne ospita moltissimi in proporzione all'Italia, e questo davvero da qui fa impressione, perché sono 600.000 i profughi siriani ospitati qui, il 10% della popolazione, e ci facevano notare gli operatori qui, è come se in Italia avessimo 6 milioni di profughi siriani ospitati. Quindi un grande sforzo della Giordania da parte dei siriani, in realtà c'è la volontà di rimanere il più vicino possibile ai confini. Molti, tra l'altro, anche qui del campo profughi di Azraq, proprio per la situazione, lo dicevamo, siamo nel deserto, senza elettricità, quindi una situazione di isolamento totale, tentano anche di rientrare. Questa è la tendenza che accade negli ultimi tempi. Ritornano dentro, anche se la situazione in Siria è insostenibile, perché pur sempre a casa loro, quindi in realtà l'Europa per loro è l'ultima chance, vorrebbero stare vicini al loro paese. Ma anche perché il radicamento alla propria terra è proprio la cosa che tutti abbiamo dentro. Io intanto, Valentina, ti ringrazio. Valentina Furlanetto, la nostra inviata, sta continuando in questo viaggio, qualcosa ci ha già raccontato nel giornale radio, l'avete sentito, qualcosa oggi, e certamente porterà nuove testimonianze, nuovi racconti che ci porterai in onda su Radio 24. Grazie ovviamente Valentina Furlanetto, buon lavoro in Giordania, al confine con la Siria. Mentre io voglio raccontare ora due storie che abbiamo accomunato, di due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, che non si conoscono, loro non sanno di conoscere conoscere, non sanno di essere accomunati da noi in quello che io potrei dire inseguire un sogno, inseguire una chimera magari, o inseguire qualcosa di un po' più tangibile, inseguire una propria volontà e perseguirla fino in fondo. Sono Samuel Marchese, che saluto, è un giovane di Siracusa. Quanti anni hai, Samuel? Buongiorno. Buongiorno, 15 anni. 15 anni, fantastico. Sì. Voglio salutare anche Federica Belletti. Federica, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Federica, invece tu quanti anni hai? Io ne ho 24. 24, un po' più grandicella. Allora, io vorrei iniziare da Samuel. Samuel di Siracusa. Samuel si trova su una carrozzina e si muove con quella che conosciamo come land bike. Per chi non conoscesse land bike, è quella che ha reso famoso anche, è la stessa di Alex Zanardi, quella che usa Alex Zanardi, Samuel, più o meno? Sì, è quella che usa Alex Zanardi, sì. Perfetto. Tu, 15 anni, ti sei messo in mente di fare che cosa? Hai un sogno. Vuoi da Siracusa fare che? Sì, allora io voglio arrivare partendo da Siracusa fino ad arrivare all'Expo di Milano, ma per lanciare un messaggio molto importante. Mm. Il messaggio che voglio lanciare, ma non solo a quelli che come me si trovano a vivere una vita con maggiore difficoltà, ma anche a chi, coloro che hanno la perfezione nel fisico ma non hanno la volontà di affrontare la vita, e voglio mandare il messaggio che lo sport è per tutti e che tutti possiamo farlo, e che la disabilità non esiste, che la vera forza, quella che veramente riesce meglio tutto, non è quella dei muscoli, quindi della forza fisica, ma è la forza della volontà e della caparbietà della mente. Quindi la forza della mente, della caparbietà, del coraggio. Tu vuoi dire la disabilità non esiste, e fare... Ma tutti in handbike da Siracusa, quanti chilometri sono? Oh, ma li hai contati fino all'Expo? Sei matto? Sì, allora io non sono solo, saremo un gruppo che ci siamo dati il nome Freedom Angels, appunto perché Freedom Angels, cioè gli angeli della libertà. Della libertà, sì, oh. Perché noi siamo certi di poter essere liberi e di affrontare qualunque sfida. Mm. Percorreremo all'incirca 750 chilometri in handbike con le nostre forze, non saremo soltanto in handbike, saremo 6 in handbike, poi 2 in tandem, che sarebbe la bici per i non vedenti, quindi davanti c'è la guida. Ah, ok, poi... 2 tandem sono non vedenti in questo caso, quindi sono, sì, in quattro non vedenti che partono. Sono 2 non vedenti e quindi 2 guide, sì. Ah, 2 non vedenti e 2 guide. Sì, poi abbiamo anche 2 ragazzi con problemi di relazioni socio-relazionali, quindi 2 autistici. Sì. E poi che verranno con le loro bici, naturalmente. Quando poi... partire? Cioè, ma intanto 750 chilometri, quando partirete? C'è una data? Allora, la data è fissata per il 21 giugno. 21 giugno? Sì. E quando pensate di arrivare? Visto che sono 25 tappe, una al giorno, pensiamo di arrivare il 15 di luglio, quindi 25 giorni dopo, sì. Fantastico, il 15 di luglio all'Expo sì, proprio volete arrivare. Beh, ma intanto, sì, intanto complimenti, perché certamente qualcosa. Complimenti non solo per la sfida, anche fisica e mentale. Complimenti anche per il messaggio che volete portare. Samuel, rimani con noi. Invece ti voglio raccontare la storia di Federica Belletti, che oggi vedo anche sul Corriere della Sera. Peraltro il nostro Federico Taddia credo abbia già raccontato la tua sfida, il tuo sogno è quello di andare a studiare alla Columbia University, anche perché sei stata scelta, sì, no? C'è stata questa possibilità. Esatto, sì. Cioè? C'è stata... Ho semplicemente fatto domanda. Mi trovavo negli Stati Uniti dopo che mi sono laureata a lavorare. Sono partita per fare la ragazza alla pari. E sì, durante il mio anno in America ho deciso di provare a fare questa cosa che mi è sembrata sempre troppo complicata, troppo lontana, troppo impossibile per una come me. Invece ci ho provato, spinta anche dalle persone, dalla mia famiglia americana che mi stava ospitando, e inaspettatamente è arrivata la missione alla Columbia. Mm-hmm. solo che la missione solo che la missione alla Columbia ha un piccolo particolare, costa 80.000 euro dollari. C'è da fare una precisazione, costa 60.000 euro. 60.000. Sono 80.000 quelli che devo raccogliere, perché per avere il visto, perché l'ambasciata rilascia il visto, bisogna dimostrare di averli, insomma, anche per vivere. Certo, e quindi 60.000 per la retta, diciamo così, per capire, e poi 20.000 di margine. Allora tu che ti sei inventato, perché dice io so questi soldi non li ho, ti sei inventata una delle operazioni di cosiddetto crowdfunding, cioè... Sì. In realtà non mi sono inventata niente, ho creato una cosa che esiste in tutto il mondo, che non esiste, non è molto conosciuta in Italia, ecco. E, c'è una grande piattaforma conosciuta davvero dappertutto che permette di finanziare le cause personali, quindi di raccontare la propria storia e di permettere alle persone che ne hanno voglia di aiutarsi oppure no, a seconda di quello che decidono. Questa piattaforma è GoFundMe, cioè per favore dammi, aiutami, ecco, mettiamola così, finanziami. Finanziami, esatto. E io ci ho provato perché sono stata ispirata dalla storia di una ragazza canadese, internazionale dunque come me, rispetto all'America, insomma non è una cittadina americana, che ha raccolto 95.000 dollari in 2 mesi. Per fare che? E quindi per lei, per arrivare a studiare ad Harvard, sociologia, educazione, credo, una cosa. E devo dire che oggi il Corriere della Sera racconta che sta andando bene, nel senso che quanto hai raccolto da parte di persone, ricordiamo, il finanziamento in questo caso è fatto in cambio di nulla. Cioè in cambio di poter sostenere il sogno di una persona che vi convince e vi dice io ho questo sogno, mi aiutate a realizzarlo. Quanto hai raccolto, però, Federica? Allora, oggi il tassametro segna 27.800, se non sbaglio, 27.800 qualcosa. C'è da dire però che quella somma è stata aggiunta alla borsa di studio che l'università mi ha offerto, di $15.000 per il primo anno e poi $15.000 anche al secondo anno. Quindi diciamo che in un mese sono riuscita a raccogliere 250 persone che non conosco, sono riuscita a farmi arrivare a 14.000 euro. Questa cosa è bellissima, a parte la gratitudine, immagino, cosa provi? Sì, esatto, no, è una cosa che non riesco a descrivere, perché la vivi e la sperimenti proprio nel momento in cui succede, non potevo immaginarmi una cosa del genere. Ci sono delle persone che contribuiscono nell'ordine dei 5, dei 10, ma anche dei 100 euro, che insomma sono tanti. È chiaro, ognuno quello che può quello che vuole, nessuno obbliga a fare niente, nessuno è bella questa sorta di solidarietà. Ci fai capire come si può visitare la tua pagina, se qualcuno volesse poi contribuire anche? C'è un link diretto che è www.gofundme.com /fede-columbia. Ah, perfetto. Vabbè, fate una cosa, perché è un po' complicato per dare. Scrivete a noi 24 mattino e radio24.it, questa è la nostra mail, ripeto, 24 mattino e radio24.it, tanto i nostri ascoltatori la conoscono, e noi vi diamo il link comunque di gofundme.com. Sì, già la gente magari non sa l'inglese, comunque c'è il modo per raggiungerti facilmente. Intanto in bocca al lupo Federica, ovviamente. In bocca al lupo anche Samuel, io abbiamo accomunato queste storie, a dire, insomma, storie diverse. Voi Samuel invece siete tutto a posto come fondi? Avete bisogno di qualcosa? Noi purtroppo abbiamo appunto bisogno di sponsor oppure di vitto e alloggio, perché... E come si fa? C'è un sito dove potervi contattare, aiutarvi? Dai, diccelo. Noi abbiamo creato un evento su Facebook che si chiama Dalla Sicilia all'Expo. Dalla Sicilia all'Expo, vi si trova così? Sì, su Facebook. E lì c'è la possibilità di aiutarvi anche solo con l'alloggio, avete capito, cari italiani? Cioè, visto che fanno 25 tappe, hanno bisogno dell'alloggio ogni sera. Samuel... E poi abbiamo bisogno anche di un media partner O televisivi o radiofonici, quindi se volete. Vabbè, noi siamo una radio, adesso non lo so, ci penso un attimo e poi vi facciamo sapere, perché no? Potrebbe essere un'idea, seguirvi tutti i giorni, caro Samuel. Sì, vabbè, anche un minuto per ogni tappa, sì. Sì, va benissimo, fantastico Samuel, io ti prendo in parola e ti assicuro che ci pensiamo qui nella redazione di 24 Mattino e qui a Radio 24. Intanto in bocca al lupo davvero anche te per questo viaggio molto coraggioso ma anche molto stimolante. E voglio chiudere con un'altra nostra inviata, Laura Bettini. Buongiorno Laura. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Allora, anche Laura in questo momento si trova in bicicletta, sì, no, non far finta, no, sì, semplice, stai pedalando, fai sentire un po' il fiatone. No, non posso, non siamo ancora partiti, partiamo più tardi perché abbiamo meno strada di altri giorni. Benissimo, che cosa stai seguendo tu Laura? Sto seguendo il Politecnico di Milano lungo questo loro viaggio di presentazione di un progetto che si chiama Vento, cioè una pista ciclabile, poi dopo magari se vuoi ho qua una persona che ti può spiegare meglio, che va da Venezia a Torino, da Torino a Venezia, giriamola come vogliamo, e che potrebbe essere davvero una svolta per tutti noi, perché comunque si tratterebbe di portare turismo, ecosostenibilità, lavoro, eccetera, eccetera, in maniera realmente anche piacevole, bella. Ecco, io vedo questi paesini qua che stiamo attraversando, sono straordinari, e noi tutti che abitiamo pure in zone vicine non abbiamo idea di cosa c'è. Ma è fantastico, da Venezia a Torino, cioè tutta ininterrotta? Tutta ininterrotta, si può fare, come direbbe Alessio Maurizi. Voi dove vi trovate in questo momento? Perché la state facendo a tappe ovviamente, cioè c'è tutta la manifestazione. Tu che tappa stai facendo? Dilla che non la fai. Io tutta. Io sto facendo Governolo, provincia di Mantova, e sì, stasera arriveremo a casa al Maggiore, quindi stiamo parlando di Cremona. Dopo proseguo ancora un paio di giorni, poi io rientro, loro vanno avanti fino a Torino dove arriveranno domenica prossima. Mi sembra giusto, tu fai un po' la debosciata, ti fermi. Sì, diciamo così. Se volete fare i miei turni delle 5 e infatti, 6, io resto con diciamo loro. Che si coglieva benissimo questa idea del tipo sì, devo lavorare, preferirei fare tutto il percorso, ma devo rientrare a lavorare. Laura, abbiamo un minuto e mezzo, chi ci vuoi passare per raccontare questo? Alessandro Giacomel del Politecnico di Milano vi passerei. Lui lo segue da 3 anni, anzi di più, questo progetto, perché prima sulla carta l'ha iniziato e poi adesso lo sta facendo. Te lo passo subito visto che avete poco tempo. Sì, e vorrei capire da Giacomel che tipo di progetto è e che realizzabilità ha dal punto di vista, cioè a che punto siamo, verrà realizzato entro quando? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. La realizzabilità e la fattibilità l'abbiamo già studiata 4 anni fa, è fattibile. Pensate che questi 679 chilometri che uniscono Torino a Venezia, con poi un piccolo peduncolo che corre lungo il Naviglio Pavese, arriva fino all'Expo, costa solo tra 80 e 100 milioni di euro. Questo lasco è dovuto un po' al fatto che l'abbiamo studiato nel 2012, quindi insomma c'è un piccolo scarto in alcune E quando si potrà realizzare, cioè compatibilmente? Ma quello che ho immaginato noi, nel lontano 2012, quando abbiamo presentato il progetto, è che secondo noi in 3 anni si può realizzare, e già qualcosa si sta facendo, c'è qualche passo avanti, tra l'altro c'è qualche novità alla tappa di Oriolitta. Sì. Però non vogliamo svelare niente, insomma, quindi continuate a seguirci. Però l'aspetto importante è che la regione Piemonte ha messo Vento come tra le sue priorità di progetto per i prossimi anni, per i prossimi finanziamenti europei. E allora, insomma, che questo sia ben augurante per tutti voi. Io intanto qui mi devo fermare, da domani rientreremo in onda dalle 6.30 alle 9, rientra Giovanni Minoli dalle 9 puntuali. Allora non mi resta che ringraziare un po' tutti Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni in redazione, anche Leonardo Siligato in redazione, ringrazio, così come Peter Bescapè in regia. Domani 6.30 puntuali noi ci siamo, e voi? Mattino.